This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questo secondo episodio della terza stagione. Un episodio che ha un titolo tutto particolare e lo annunciamo subito, tanto per che sta scritto sul titolo di testa, insomma, della puntata. La gente ascolta da un dispositivo, dalla macchina, che ne sa, ascolta cieca, senza sapere cosa ascolta. Esatto. Per esempio, senza manco guardare la copertina del podcast. Ma non è detto che passano il sito, lo scaricano da iTunes, dalla iTunes non c'è copertina. Non c'è copertina. Sono rispacciatori comunque, di podcast. Comunque, com'è il titolo, Marco? Non me lo ricordo. Tanto andavo tutto a puttane, quindi a questo punto. Assolutamente non me lo ricordo. Ora basta, siate serie. Bravi. Interviene Sasu a bravissimo. Salvarmi proprio come al colpo. Quindi a questo punto, dato che oramai hanno deciso che non vanno fa tutti un po' come cazzo gli pare, il primo che presento è grande, mitico e non solo, la cosa straordinaria è che qui in studio con noi Luigi Marrone. Ehi, grandi, ciao a tutti. Dai, Luigi, tutto a posto? Tutto a posto, soprattutto reduce da quella... questa pizzata che abbiamo fatto, che è una bufala baby, che se vuoi vedere il concetto, non era né bufala né baby, sì, era, nel senso che era un bambino, era proprio era baby nel senso che era una creatura, sì. Esatto. Quindi, a parte questo tutto ok. Abbiamo ovviamente lo studio distribuito di IPN che è come al solito stanziato in casa di Giuseppe Saso. Buon salve a tutti ragazzi. Yeah. Spero che vi sono mancato l'episodio precedente, quindi qua per recuperare doppia razione di Peppe per due. Purtroppo di VL c'è un team talmente vasto che oramai il turnover e neanche noi ce li ricordiamo tutti. È d'obbligo, continua. Si esce, entra così. E abbiamo anche Marco Gualdi, il distruggitore. No, qui a rompervi le palle. Esatto. Vi ho tediato già la prima puntata, anche la seconda. Esatto. Infatti, se la terza e la quarta, probabilmente lo cacciamo. Detto questo, siamo per... Allora, prima di tutto, grazie, perché sappiamo che il format del primo episodio è piaciuto, il fatto che siamo riusciti a incassare la trasmissione 1:45. Forse sono un po' di problemi dal punto di vista di quelli che sono i contenuti, perché ovviamente i tempi sono un po' più stringati, cercheremo insomma di... Questo non significa che però non ci si possa ritornare, Esatto. Perché magari non li sfioriamo e poi quando succede la cosa particolare ci rientriamo dentro, lo righermiamo. Esatto. E detto questo, io direi là, ci sono un paio di notizie. Noi siamo reduci da Berlino e non diciamo niente di Berlino perché c'è stata la puntata apposita, quindi è inutile insomma di parlarne, giusto Luigi? Facciamo finta che non ci siamo mai andati. Esatto, facciamo finta che ancora dobbiamo partire, diciamo così. E detto questo, c'è una notizia così, vogliamo dare un paio di notizie così al volo, giusto per prima di iniziare, tanto per far vedere, perché no, abbiamo scoperto una cosa tristissima, che io e Marco sappiamo insomma che è tristissima, perché chi conosce il cinema non può non conoscere Uwe Boll. Perché Uwe Boll lui è il regista di cinematografo riconosciuto come forse il peggior regista della storia del cinema. Sicuramente vivente. Se la storia del cinema non si sa, perché magari ci saranno stati anche peggiori probabilmente. Però insomma, ma diciamo... no, lui fa brutto cinema consapevolmente, questa è una cosa bella, e neanche orgoglioso. Vediamo film come Postal, dove veramente Blood Rain, mi sembra che anche lui aveva fatto sì. Alone in the Dark, che veramente quello era proprio un brutto film, proprio brutto, anche perché è fatto male, insomma, detto noi. Insomma, questo ricordiamolo fantastico... che lui utilizza l'oro dei nazisti per fare i film, questa... esatto. Sì, lui fa film perché lui e il fratello hanno questa casa di produzione. Lui è nazista, dichiaratamente nazista. E quindi insomma è un personaggio un po' particolare. Che lo citiamo perché noi andiamo siamo andati in Germania. Esatto. Di conseguenza l'abbiamo anche cercato per cercare di vedere se lo potevamo conoscere. Non ci siamo riusciti, ma diciamo perché lo citiamo? Perché Uwe Boll fa di solito i film dei videogiochi, cioè nel senso dei tie-in. Dei tie-in, e lo vengono tirati a mente. Ma c'è una novità. C'è una novità perché c'è un film che è un film, una serie, non ho capito esattamente che cos'è. Che si chiama Anger of Dead, o The Dead, adesso mi sfugge, vediamo un po' se c'è qualche cosa, qualche notizia in più. Dovrebbe chiamarsi proprio Anger of the Dead, se non sbaglio, in cui recita il nostro conoscente. Insomma. Sì, anche una persona che noi conosciamo. E che stimiamo a prescindere, anche se ha lavorato con Uwe Boll. Anche se da adesso che ha lavorato con Uwe Boll, diciamo, insomma, stima. Però, insomma, salutiamo Claudio Camilli. Insomma, vabbè, detto questo, come sapete, appunto la trasmissione di Etrologia Videoludica è divisa in piccole rubriche, e quindi a questo punto iniziamo subito con la prima rubrica. Nell'altra puntata abbiamo parlato di eccessi anticipati, questa volta invece andiamo alla rubrica Primo Avvio. Primo Avvio. Allora, abbiamo detto Primo Avvio, ci sono due giochi. A questo punto io lascio la parola a Marco e a Giuseppe, che ci parlano dei loro primi avvii, che come abbiamo detto è la rubrica dove si parla di giochi che abbiamo appena preso, diciamo, utilizziamo un termine proprio aulico, dove si svergino i giochi. Si svergono, vabbè, appena hai preso il gioco, l'hai infilato nella console. No, cioè prima l'hai spacchettato e là già rimuovendo il sigillo diventa vergine. Esatto. Non è più vergine. Giusto. E a quel punto viene infilato, ci sono i primi 10 minuti, un'ora, due ore di gioco, insomma, quindi le prime impressioni. Ma allora, i due giochi, Marco, quali sono? Innanzitutto ringraziamo Carlo, perché ci ha fatto gli stacchetti, no? Abbiamo ringraziato l'altra puntata che ringraziamo. Tutti gli assets di Etrologia Videoludica sono stati rifatti, originali, completamente da zero, dal nostro grande amico Carlo Burigana. E abbiamo perso già un minuto per dire questa cosa. Quando tanto dobbiamo sprecare tempo. Questa puntata, cioè, allora, quali sono i due giochi? Io ho un primo avvio di cui c'è l'apposita articolazione nel sito. Perché ricordiamo che sul sito stanno uscendo anche molti, molti articoli. Ovviamente del tutto inutili, però riempiti. Ed è Dead Luigi, Rising. Li legge, vero Luigi? Tu li leggi? Sì, io le sto leggendo una adesso, infatti mi è distratto. Ecco, scusa. Torna a leggere. Sì, ma lui di solito li legge nel bagno dopo che li ha stampati. Il gioco è Dead Rising 3, che è il seguito del seguito di Dead Rising, appunto, in cui c'è il solito, diciamo, outbreak, la solita infezione di virus zomba. Allo Sperdidos, dove il solito protagonista, che non mi ricordo come si chiama perché per me è il fantoccio che si muove, è così che lo amo chiamare, va in giro praticamente per questa città cercando di sopravvivere un tot numero di giorni, perché cioè, questo è un gioco a tempo, quindi dovrà sopravvivere un tot numero di giorni incontrando gente malata, ma non malata di infezione, ma malata di mente. Ma che c'è la febbre? No. C'ha la febbre, ma proprio malata di mente, che va in giro a fare cose assolutamente stupide in mezzo a un po' di queste zone. Tipo, non so, vestirsi da samurai e ammazzare tutta la gente che entra nel proprio giardino zen. Perché del genere, Insomma, ci sono anche quelli. E la cosa molto simpatica è il poter utilizzare, che ne so, lo schiacciasassi per buttare giù frotteri, ma frotte, proprio schermi pieni di una massa in forma di zombas che ti vengono addosso e tu li schiacci. Anche in modo ridicolo, diciamo. Assolutamente, in modo ridicolo. Ma il gioco vuole essere grottesco da quel punto di vista. Esatto, soprattutto se vi vestite da nazista, per rimanere in tema, col cappello da gerarca e i pantaloncini da box, è ancora meglio. Quindi vi consiglio comunque l'uso di spropositato di vesti. Cioè, rispetto ai precedenti? Più zombie, sì, assolutamente più zombie. Un po' meglio la grafica. La grafica, sì, più libertà anche volendo. Anche se le missioni sono sempre quelle, punto A, punto insomma, B. Sì. Cioè, doppiato in italiano. Doppiato in italiano, doppiato in italiano. Tu ci hai giocato, Luigi? No, purtroppo mi sembra questa un'esclusiva per adesso. No, ora è uscita anche su PC. Esclusiva Torrent. Tutti tra i mule. No, a parte gli scherzi, è uscita da poco su versione PC. E devo dire, insomma, che è abbastanza. Parla di cioè, prime impressioni? Allora, prime impressioni è che quello che pensavo, come dopo aver giocato il 2, cioè che lì per lì è simpatico, ammazzi migliaia di zombie, ma poi alla fine, allora, lo zomba deve far paura. Se lo zomba non fa più paura, non è più uno zomba. Se viene, dici, diventa una macchietta, grottesca, una messi... massa in forma di cose a cui passa, sì, sopra. Sì, ti schiacciava a pezzi in tutte le maniere. Se ammazzare lo zombie diverte. Anche se io però vorrei fare un'osservazione antropologica sullo zombie con te, che noi sappiamo che lo zombie c'ha difficoltà a concepire il mi arrampico. Sì. Lo zombie cammina, al massimo sale e scende le scale. Al massimo. Se butta, lo esatto. E quindi lo zombie che te salta sopra lo schiacciasassi. Beh, no, insomma, cioè, è lo zombie che cerca di arrampicarsi, si attacca con quel che si aggrappa proprio, dai. Si aggrappa, sì, sì. Non sì, è lo certo. Zombie non le fa queste cose, mi insegna il buon Luigi Marrone. Certo, io ho un'esperienza di zombie. Tu hai fatto uno studio antropologico sugli lui zombie. Lui è un zombologo di fama mondiale. Sì. Beh, non sono gli zombie di World War Z che erano tipo uno sciame. Giusto, è vero. Tipo le cavallette. Dopo quello hai ragione, dopo quello che va bene tutto, sì. Scorrono e si arrampicano e saltano delle mura di 100 milioni. Ovviamente poi lo sfondo è sempre questa praticamente virus. Sempre guardate il microfono quando parlate. Se tu guardi il microfono guarda te, infatti. Esatto, bravo. Bisogna sempre sopravvivere in questo mondo di zombie, dove alla fine la gente convive con queste epidemie random, perché c'è questa società che vende lo Zombrex, che è il virus, che è l'anti-zombificatore. Se sei morso e ti fai lo Zombrex scadenze regolari, non ti zombizzi. Ah, è come la malaria, quindi, cioè, non guarisci. Non è un vero e proprio vaccino, è una specie di palliativo. Esatto. Diciamo che non guarisci e quindi devi ti tengono in vita. Quindi lì è bello, perché creare, fare di tanto in tanto uscire un po' di zombie, far infettare un po' di gente, significa avere nuovi clienti. Mm-hmm. Ok. E qui c'è la versione della, infatti sto ancora all'inizio, per cui ancora devo vedere bene, la nuova versione di Zombrex, che viene data tramite un chip impiantato sotto pelle, che teoricamente dovrebbe salvarti, però all'inizio del gioco scopri già che uno che aveva il chip, perché lo conosco e vedono che ha il chip impiantato, lo trovano zombificato e quindi si chiedono: ma perché questo che ha il chip si è zombizzato? Porco Giuda, perché ce l'hai installato Windows 10 probabilmente, esatto. Che non è direttamente il 9, sì. Esatto. No, forse lui aveva il 9, okay. Il problema è che non era di stai levando minuti preziosi a Peppe, devo e dico quindi detto questo io direi: se vi piacciono gli zombie a prescindere è un buon gioco, se vi piacciono zombie che vi fa paura potrebbe non piacere. No, diciamo che è un tipo di gioco un po' cazzarello e quindi vedi, piace cazzarello, proprio la carneficina a prescindere, insomma, tanto bene. Sì, potevano esserci anche coniglietti giganti, volendo, diciamo, questo non forse sarebbe... sarebbe piaciuto anche di più, ma poteva essere anche più interessante. Vabbè, ci sarà qualche costume tipo da coniglio, da mascotte, sì, però c'è non li devi uccidere, no, okay. Comunque io direi che chiudere, okay, questo vero pietoso, questo sipario. Luigi, tu ci giocherai a questo gioco? Io non possiedo un PC, ma c'è l'Xbox One, hai detto, One, scusa, se scenderà di prezzo anche, però non ho ancora giocato il secondo, una parentesi di un minuto, il primo poi invece l'ho giocato, io l'ho giocato, beh, il primo è un pezzo di storia, però perché insomma è uscito al lancio assieme alla Xbox, sì, 360, e mi ricordo praticamente che proprio questo, il numero degli zombie e il fatto di poterci giocare in modo così dissacrante, quindi senza questa serietà che solitamente accompagna la zombie che fa paura, era il punto di forza e della potenza, sì, di Xbox 360 quando uscì. Penso che sia perso qualcosa un po' col tempo. Intanto si è persa la possibilità di fare foto, perché qua non sei più un fotografo, sei quindi sei un meccanico, sì, qua. Però vabbè, col PC fai il programmino, schiacci, sì, ma non è la stessa cosa, là tipo dovevi scegliere il momento giusto dove scattare. Sì. Comunque passiamo al secondo, che invece era Hyrule Warriors, che sin da quando è stato annunciato praticamente questo l'hai giocato, era l'ho giocato io, l'abbiamo giocato pure oggi con, con buon Luigi, anche Luigi può dire la sua, ed è fondamentalmente sin da quando è stato mostrato un direct di inizio anno, è un Dynasty Warriors, quindi un Musou con i personaggi di Zelda, fondamentalmente quello è, e quello si è rivelato sin dalle prime partite. Ma come gioco comunque è carino, se vi piace il genere, dove fondamentalmente dovete andare in giro per queste missioni, quindi queste mappe, a conquistare basi nemiche massacrando un sacco di nemici che fondamentalmente si limitano a malapena a attaccarvi ripetendo sempre gli stessi pattern. Forse ogni tanto è un po' più difficile quando spunta il generale avversario, perché poi dopo che cominci a falciare mostri su mostri, dopo un po' esce fuori dal campo di battaglia il generale, tu ammazzi pure quello e hai conquistato l'area, e quindi ti muovi un po' come tipo lo scacchiere del risico a conquistare area su area finché non soddisfi le varie condizioni di quel particolare scenario. Risico che ricordiamo ha fatto finire generazioni di amicizia. Esatto. Proprio storie e tradizioni. È ancora più divertente se amate il genere che di fondo è ripetitivo, potrebbe piacervi ancora di più visto che è contestualizzato nell'universo di Zelda e che è anche possibile giocare pure in due in cooperativa solo locale con un amico. Infatti Luigi ti è piaciuto tu, quindi Luigi da fan non tanto di Dynasty Warriors quanto della saga di Zelda lo consiglieresti? Allora, c'è da dire che la prima recensione che scrissi fu una da Ghostwriter, quindi per un recensore italiano. E mi ricordo che Ghostwriter, attenzione Luigi, scopriamo delle cose di Luigi. Sì, la prima recensione fu Kessen 3, che c'è questo prodotto, questo museo per PlayStation 2. Tra l'altro, immaginate cominciare a fare una recensione con Kessen 3, che era una cosa proprio un po' propriosa, proprio da tutti i punti di vista. Poi non piacere, insomma, anche perché a chi non interessa, insomma, il medioevo giapponese, insomma, sti cazzi. Ho ritrovato quella sorta di sapore strano. Sì, cerca di essere serioso in qualche modo questo Zelda, una declinazione che non si è abituati a vedere. E quando si impugna il control pad dalla mano, c'è questa sensazione di stranezza, di estraneità un po' da tutto. Però è un'azione veloce, non ho notato dei rallentamenti, il motore grafico è solido. Cioè, se certo, non è un non è un gioco che graficamente spacca come Mario Kart, però è molto divertente e additivo, no? No, non additivo nel senso che aggiungi, che provoca dipendenza. Quindi orienti il commento, diciamo, il voto, anzi la considerazione da primo avvio, cioè nel senso da prima botta e via. È un gioco che potenzialmente farai un secondo, un terzo, un quarto avvio. Sì, e non solo, è che sin da ora presenta un sacco di già annunciati DLC e dove la gente ci spenderà un sacco di soldi solo per avere nuove skin di personaggi di Zelda. Ricordiamo la puntata al giochi al trancio, l'ultima della stagione scorsa, per riprendere un po' il discorso. Eh sì, cercate, andate a scaricare. Comunque, se vi piace, quantomeno approfitto, scusa, per dire che le puntate di Erologia Videoludica su iTunes e sui feed reader, quindi sul feed, sono nuovamente completamente disponibili. Se vi piace comunque la serie di Zelda e non cercate per forza lo Zelda classico, questo potrebbe comunque piacervi. Va bene, Luigi, pure sei d'accordo, insomma. Sono d'accordo, dimenticatevi quel senso di libertà, perché qua si parla di mappe, una cosa molto diversa, e penso che finalmente Nintendo, insomma, è riuscito a capitalizzare quelli che sono gli elementi di forza dei suoi videogiochi, tanto da farne anche una sorta di spettacoli e episodi precisi che esulano dal genere Zelda come tutti lo conoscono. Perfetto, allora a questo punto Marco, tu non c'hai gioco, sai proprio un cazzo di cos'è questo gioco? No, immagino. Però vabbè, Marco sa che cos'è un muso? Faccia di muso. Ah, sto muso che si alza. Te rompo il muso. Te spacco il muso, esatto. Vabbè, a questo punto va bene, ringraziamo sia Marco che Peppe per questi due primi avvii e ci vediamo, insomma, magari alle prossime puntate con altri primi avvii oppure addirittura. E vi rimandiamo ovviamente agli articoli relativi sul sito di DVR. Perché primo avvio e forse anche eccessi anticipati saranno proprio delle rubriche specifiche di Trogia Videoludica. Va bene, a questo punto andiamo, inutile poi. Cioè, annunciare la rubrica quando il jingle stesso l'annuncia, insomma, sembra. Lanciamo direttamente il jingle. Lancio il focus della puntata, quindi no, jingle! Osservatorio dietro ludico. Allora, questa è una puntata un po' particolare e questa è forse la prima grande sfida della terza stagione di Trilogia Videoludica, perché il tema è ciccio e il tempo, abbiamo detto, è quello che è. Quindi io ho detto a loro, oggi, lavorando sulla scaletta, condensate. Infatti sarà talmente condensato che impregnate, io quello vedo che noi dovremmo dire in 45 minuti, 40-45 minuti, lo diciamo in 10. In 10, esatto. Poi facciamo 30 minuti di cazzate. Allora, io lascio a Marco prima la possibilità di fare l'introduzione. Anche se io già faccio ritornare. Siate, siate com'era, com'era il titolo? Siate serie. Esatto. Ora basta, siate serie. Quindi si parla ovviamente di serie di giochi. Anche se io partirei già da un presupposto, però magari ci arriviamo dopo, quando Marco ci ha fatto l'introduzione. Anche presupporlo subito, se vuoi. No, prima introduci il tema, perché se non introduci il tema... Il tema appunto è la serializzazione dei videogiochi, quindi il reiterare giochi che sono usciti e che hanno avuto un certo successo con nuove versioni. Poi dovremmo distinguere pure tra quelle che nascono come delle saghe, quindi che ne so, come potrebbe essere come la trilogia, esatto. Come invece da una parte, e dall'altra parte altri giochi tipo Call of Duty che nascono come giochi sentite, a colpo unico, ecco. Non è uno spot della Coca-Cola, ma è quello della Pepsi, sono effetti della Pepsi. L'altro sponsor occulto di questa stagione, no, da adesso, è proprio da adesso. Sì. Dicevo, dall'altra parte giochi che nascono per, diciamo, in realtà non come serie, ma che lo diventano visto il successo e che sono reiterati in continuazione. Cioè, i giochi di Ubisoft, mi stai dicendo anche? Maggiormente, esatto. Non soltanto quelli di Ubisoft, e che quindi vengono di anno in anno, a volte anche di meno. Ubisoft fatte nuove versioni di giochi pressoché identici, cambiando un pochino la... Cioè, quello che tu vorresti dire, secondo me, è il fatto che a oggi, a differenza del passato, è più facile vedere praticamente dei giochi in realtà non è una serie di giochi facile. Quindi magari, come posso dire, le reiterazioni dei giochi stessi non è che è più facile rispetto al... è che rispetto a una volta è più facile che venga serializzata un gioco che magari non valeva la pena farne. Probabilmente una volta si faceva un numero 2 se il gioco vendeva tanto e se valeva la pena, al massimo si faceva il colore. Oggi invece tu dici le software house o i publisher non hanno il coraggio, piuttosto di investire su una cosa nuova, investono praticamente su cose che già facciamo un esempio che è proprio di Lucius Uncharted no. Facciamo che ci arriveremo. No, Lucius. No, Lucius è un'anomalia, però. È un'anomalia, però voglio dire, insomma, se è come se oggi Sueri facesse D4-2 dopo aver venduto 10.000 copie, diciamo così, insomma. No? Per rientrare in vecchie polemiche. Esatto. Però io introdurrei questa discussione partendo da Luigi. Perché secondo me qui noi parliamo di serializzazione, ma in realtà il termine serie, nell'accezione più americana, distingue un po' dalla saga dal concetto di serie, perché la serie è una serializzazione reale, quindi come possono essere i giochi magari Telltale o come può essere un telefilm appunto, e le saghe sono praticamente il 2, il 3, il 4 che escono di un certo tipo di gioco. Tu come la... Sì, io penso che la serialità in questo caso del videogioco, ma anche del cinema o di altro, si è legato alla frequenza con la quale praticamente si cerca di portare avanti un progetto più ampio in tempi prestabiliti. Quindi fondamentalmente serie, più che riguardare il contenuto, quindi mettiamo la saga di Assassin's Creed, chiamiamola saga, ma la serie di Assassin's Creed, diventa tale una serie perché si presenta sempre allo stesso periodo dell'anno, così come Call of Duty eccetera. Quindi già fare un grosso distinguo da questo punto di vista. Serializzazione legata proprio alla tempistica con quale la fai uscire. Perché se fosse un Assassin's Creed, ad esempio, che esce una volta ogni 2 anni, e quindi prende una sua... una volta ogni 2, poi 3, poi 1, ad esempio, là non è più una serie. Si può parlare di saga, una grande saga che riguarda... Ci facciamo una grande saga. Una grande saga, esatto. Invece quasi la serie sì, è proprio... al contrario di Call of Duty. Di un FIFA, di un PES. Esatto. E quindi faccio questo distinguo qui, come prima cosa. E la domanda volevi, Simone, che rispondessi anche su cosa ne penso io delle serie? Vedi tu, insomma, adesso io sono un attimo distratto. Ma io lascerei la parola a Giuseppe a questo punto e poi ci torniamo. Cioè, la domanda in realtà all'inizio era quella alla quale tu hai risposto. Sì, cioè, sì. Facciamo prima un primo distinguo, sì. Dire. Poi entriamo, diciamo, invece nel concetto che voleva esprimere Marco, cioè quanto poi in realtà Ok. Ma io direi innanzitutto che c'è anche da fare un'altra ancora distinzione tra vera e propria serie e franchise. Dove per franchise si intende lo sfruttamento solitamente di un brand, di un personaggio iconico che abbiamo visto appunto in una serie di videogiochi, dove magari però i vari giochi tra di loro potrebbero anche non essere necessariamente accomunati anche dallo stesso gameplay. No. Tipo per dire Mario. Esatto, i giochi Nintendo di Mario, dove Mario ovviamente lo vediamo sin da Donkey Kong, però in realtà poi noi potremmo dire o che consideriamo la serie di Mario, quindi quella Super Mario canonica, e comunque anche là tra 2D e 3D cominciano ad esserci già delle pesanti differenze, oppure tutti gli spin-off dove compare Mario, quindi andiamo a considerare anche la serie Mario Kart, Smash Bros, che so, Paper Mario, insomma tutte le i giochi dove comunque sappiamo che fa capolino l'idraulico baffuto di Nintendo. E poi il discorso delle serie, comunque c'è da dire un risvolto, e quindi qua entriamo anche nella parte di dietrologia vera e propria, pratico, perché escono ora sempre più appunto serie e non si punta come si faceva una volta su 9P, come facevano diciamo negli anni 80, che usciva questo gioco e raramente vedevi il gioco, lo stesso un altro gioco col titolo del 2 accanto, no? Ma c'era un gioco completamente diverso. Perché? Perché fondamentalmente, visto che ormai i videogiochi hanno a livello produttivo, quelli che noi tanto decantati AAA, richiedono budget equivalgono a quanto una nazione praticamente spende in un mese. Se è proprio su dietrologia videoludica, forse sì. Era proprio Luigi che lo diceva, che sì. In realtà oramai l'industria del videogioco l'industria cinematografica, e proprio per questo, quindi per rientrare nei costi bisogna sfruttare, come suol dire, del porco non si butta, non si butta, esatto, il framework, quindi il motore grafico che c'è dietro, anche gran parte degli assets, perché per dare brutalmente, cioè, un'idea, esempio, se io ho un gioco che vende 10.000 copie, faccio 5, ne ho vendute 50.000, per cui con lo stesso motore. È geniale questa, esatto, cosa. Non andiamo su esempi sullo specifico, esatto. Però forse, diciamo, però poi, ma anche di serie, diciamo, più ampio respiro, come appunto la serie di Call of Duty, se ti ricordi, io vado a riciclare addirittura anche certi assets particolari, come certe scene di Call of Duty, se ti ricordi, tra Modern Warfare 2, c'erano 3, eccetera, identiche. Erano proprio identiche come inquadrature, come come sezioni, esatto, esatto, esatto, esatto. Quindi e tutto questo ovviamente è fatto per l'accanimento verso Disney, solo perché si è comprata Lucasfilm, esatto. Non è bello. È tutto in realtà per rientrare nei costi, quindi insomma ci vedo semplicemente una bieca operazione commerciale. E dall'altra parte probabilmente magari anche la mancanza di coraggio nel voler investire in la mancanza di coraggio, perché ormai l'abbiamo visto con tantissimi giochi, quando la tua IP magari è interessante, ma non riesce a raggiungere il target desiderato di vendita, o lo raggiunge e comunque non hai recuperato gran parte delle spese, o te li mangi, come sei, ha fatto la casa, esatto, di Kingdom Survivor, esatto. Se li è pappati, succede, com'era 38 Studios, se non sbaglio, sì. Sei comunque costretto a chiudere, quindi a chiudere lo studio di sviluppo e mandare a casa tante persone, a volte anche non pagando, che non è mai bello, esatto. Marco? Beh, io diciamo che abbiamo detto un po' tutti. Io mi concentrerei sulla parte meno virtuosa però di quella che era la serializzazione, e cioè quella, la reiterazione che possiamo vedere nei vari FIFA, nei vari PES, nei vari COD, Assassin's Creed, che ormai fai ogni 6 mesi, ne escono anche due in contemporanea volendo. Quelli di FIFA, diciamo, dei giochi sportivi è un po' più difficile comunque, cioè le regole del calcio sono quelle, quindi te ne puoi uscire, è molto poco virtuoso, cioè il gameplay non è che non può cambiare, certo te ne puoi uscire magari con nuove, lo decantano sempre, poi alla fine non lo troviamo mai, quando un'intelligenza artificiale migliorata, nuovi sistemi dinamici per il controllo della fisica del pallone. Io ho visto giochi completamente trasformati con mod di poche centinaia di mega, alla fine, ma ogni anno ti fanno ricomprare il gioco nuovo, ma alla fine tu ogni anno te lo ricompri per un solo motivo, per avere le squadre aggiornate, che comunque tramite internet, una volta col PC facevi da solo, cioè, sì, oppure ma comunque in ogni caso caso, le super patch. In ogni caso, quando te lo vai amatoriale. A comprare, non sarà mai completamente aggiornato. Una volta con dovrai comunque collegare il loro server per scaricare. Quindi... Ma io ti ricordo che una volta con l'amica, con Kickoff e con Sensi Ball Soccer, io prendevo, mi creavo la squadra, ci cambiavo io la magliettina, andavo a selezionare ogni giocatore e ci cambiavo nome. E là c'avevo già la squadra aggiornata. Senza parlare del fatto che io su PES c'avevo la squadra degli Astrakats by Buzzunculator, che erano veramente la squadra degli amici mia del mare, ma tutti rifatti uguali, precisi proprio. Cioè, poi dai primi PES, cioè Pro Evolution Soccer, c'erano 18 su PlayStation 1. Cioè, per me però c'è comunque anche da considerare un'altra cosa. Ora, non è per fare l'avvocato del diavolo, però c'è anche Scusate. Sì, c'è disturbi, le interferenze. E perché nel frattempo volevo fare il multimediale, ma io non sono capace a fare questa cosa. Nel senso che non riesci a fare più volte la scuola media. Il monomediale, no? Devi fare, ragazzi. Comunque, a parte gli scherzi, c'è anche, non per fare appunto a difesa dei publisher, software house, ma ci sono anche gran parte di comunità di giocatori che sono abituati a quella determinata di tipo di gioco, gli è piaciuto tanto, che ti chiedono solo quello. E anche molte volte, anche se provi a cambiare una meccanica o anche farla in maniera leggermente diversa, ti vanno contro solo perché tu hai deciso di cambiarlo. Avevo messo anche esatto. Il fatto che ti trovi poi ad avere una certa utenza che magari se poi Final Fantasy, che comunque sono un po' di anni che vengono fatti, altri giochi che adesso magari non mi vengono più in mente, ma che sono comunque vecchi e che sono in giro da qualche decennio e che ovviamente vanno ad avere comunque non so colore di persone, di fan che sono abituati a determinati tipi di gioco e di meccaniche, che poi dopo tu gli stravolgi, gli fai un po' più casual, perché comunque se prima le vendevano 100.000 copie, adesso non devono vendere 1 milione, per cui devono buttare dentro più persone, quelle 100.000 cominciano a odiarti. Esatto. Quelli nuovi non comprerebbero mai i vecchi giochi perché tanto non ci giocherebbero mai, perché sono per loro assolutamente incomprensibili, e qui si trovano praticamente a dover poi alla fine barcamenarsi, mettere il piede in due scarpe per cercare di mettere d'accordo i vecchi fan con i nuovi. Poi ci riescono. Questa è la domanda. Secondo me perdono parecchi, alla fine preferiscono perdere quelli vecchi piuttosto che guadagnarne di nuovi. Quindi anche perché poi pure il discorso di quelli vecchi non è detto che continuano alla fine, perché magari ci sono anche molti giocatori che arrivano a una certa età, cioè, si sono stufati di giocare. Io sono quasi morto. È quasi morto. Luigi? Stavo pensando soltanto al fatto che è strano abbinare il concetto di serie, se ci pensate, a quello di videogioco, perché teoricamente il videogioco dovrebbe essere una sorta di focalizzazione su quelli che sono degli elementi di gameplay, su una sorta di realizzazione compiuta in sé, che invece con i prequel o i sequel vanno ad ampliare molto volte un universo, uscendo fuori da quella che è forse la forza autoriale del videogioco stesso. Immaginatevi alcuni giochi intoccabili, tipo, se l'avete giocato, fare un seguito di Shadow of the Colossus, per intenderci. Non puoi fare un seguito di una cosa simile, perché è il motivo per cui non uscirà mai Last Guardian, soprattutto, ricordiamo. Sì, infatti quando si comincerà a dire Last Guardian non è il seguito di Shadow of the Colossus, annuncia la data d'uscita. Sì, esatto. No. Beh, però loro hanno detto che non è il seguito. No, anche ci voglio credere. Sì. Ah, se stava a prendere per culo. Sì. No, pensando... volevano mettere 32 colossi all'inizio, magari adesso ce li metto. Sì. E poi ne diventati 24 e poi 16. Per dire, quindi, molte volte i giochi che hanno una riproposizione nel tempo sempre frequente, sempre programmata, solitamente non sono giochi molto forti autorevolmente. Cioè c'è bisogno di una sorta di forte caratterizzazione affinché un videogioco possa, secondo me, essere considerato tale, anche se senza appesantire quando esce frequentemente nel tempo. Là ho visto la tua scatola, c'è Borderlands 2, sì. Gioco molto bello, dico la verità, l'ho amato, eccetera, tutto, però è inutile negare che la magia si era persa col primo, cioè ho giocato il primo, l'abbiamo finito, spolpato e tutto, cel shading, questo first person shooter molto robusto, il multiplayer online, una riposizione del secondo quello che devo dire è sì, pensiamo c'è il pre-prequel, il presepe. Questo fa presepe. E quindi questo è il motivo per cui alla fine Gearbox si è pure alleata con Telltale, perché dice giustamente ci siamo rotti di fare lo sparatutto del Borderlands, facciamo l'avventura grafica. Perché probabilmente loro credono che l'universo ha ancora da offrire anche dal punto di vista narrativo, visto che insomma Borderlands. Voi guardate la percezione che sia poi del videogioco quando viene riproposto e allungato come brodo, per quanto di valore possa essere per un sequel o un prequel. Io per esempio penso a The Walking Dead, la serie di Telltale Games sempre. Cosa succede? Io penso che sia di valore anche la seconda parte. Però, diciamo, però proprio prendere la bimba che praticamente era la promessa della prima e farla vedere come viveva prima di tutti quegli eventi, o comunque, cioè, c'è sempre questo aspetto di approfondiamo i personaggi, approfondiamo. Però lì è diverso proprio, secondo me. Cioè, lì siamo entrati in un medium che è veramente, come posso dire, in un intermondo tra veramente la serie televisiva e quindi la pura narrativa da un certo punto di vista, e quindi l'intrattenimento e il videogioco. Sì, però se era quello che sappiamo che una branca del videogioco sta diventando. Sì, però se tu noti, proprio perché sta prendendo piega questa, almeno per quanto riguarda i giochi di Telltale, la moda di fare appunto le stagioni come nelle serie TV, stai anche ricadendo nei difetti delle serie TV, ossia che magari comincia ad avere delle stagioni via via col tempo sempre più fiacche, e lo vedi in parte comunque con la stagione, tra la stagione 1 di The Walking Dead e la stagione 2 c'è, comunque si è notato è partito col botto, sì. Vabbè, quello lì, però lì era anche scioccante un calo comunque c'è stato, e ma quindi è normale che, ma secondo me qualsiasi reiterazione di un qualsiasi prodotto, cioè Rocky 2 non è mai, non potrà mai essere più bello di Rocky 1. Però Mass Effect 2 sempre fare din din din, era più bello di Mass Effect 1. Allora, Mass Effect 2 era tecnicamente e dal punto di vista del gameplay superiore forse a Mass Effect 1, ma Mass Effect 1 rimane Mass Effect 1. Sì, io penso, infatti sono d'accordo da un certo punto di vista con Simone. Immaginate l'impianto tecnico di Mass Effect 2 portato nei mondi di Mass Effect 2. Senza il mago. Senza il mago, però. Terribile, quella è stata brutta, quella sì. Cioè, il mago era un po' troppo lungo. Se fosse stato la metà. Ma sai perché? Perché quella era stato il gioco di transizione tra la vecchia BioWare concezione gioco di ruolo vecchio. Devi soffrire. Con invece la BioWare che va verso l'acquisizione da parte dell'impero oscuro di Electronic Arts. Verso l'intrattenimento commerciale. Devi far soffrire i giocatori, devi spolpare i giocatori. Però io ricordo che la prima volta che ho fatto parte di Mass Effect, solo la schermata iniziale con la musica, quel suono che proprio mi ritrasmetteva il fascino di uno spazio ignoto, fantascienza, cioè puro veramente per me, immaginare. Due e tre non, cioè belli per carità, però sì. Tra l'altro quello dico e qua lo affermo con fermezza, a me è piaciuto il mago. Io mi dava delle belle sensazioni di viaggiare, per esempio quando sono andato sulla luna. Stare sulla luna e vedere cadere un aereo, dirò posso anche morire, però posso dire che virtualmente sulla luna ci sono stato. Quindi comunque ho visto se il cadere lunare, ho visto che significa arrivarci e scendere, entrare dentro la base. Io lo faticavo Luigi, proprio. Luigi, quindi se metti caso Hello Games ti fa i comandi delle navette di No Man's Sky come il mago, a te piace lo stesso il gioco? Ti piace lo stesso aspetta, il gioco? Aspetta, stai parlando di comandi, come si comanda praticamente? Sì, la navetta la controlli nell'atmosfera del pianeta, esattamente come il mago. Ci mettiamo del gameplay. Esatto. Perché l'idea del fatto di scendere sul pianeta e di esplorarlo, andare a cercare anomalie, perché era la figata. Sì. È proprio il fatto che dovevi scalare le montagne con sto trattore. Io con sto trattore. Io ci ho bestemmiato giorni in te, perché veramente c'erano delle volte che non c'è. Sì. Stai dritto, cazzo. Guarda, il Firewalker del 2 era, secondo me, se avessero utilizzato una tecnica come quella sarebbe stato fenomenale. Perché era più veloce nel muoverlo. Non vedevi sta cosa che rimbalzava tutto da tutte le parti, e ti chiedevi: ma quelli dentro, ma quanto vomita? Sì. Cioè, stai lì dentro muore. Mentre che aspettavano, allora no, dai due carte. No, avevano un sistema di sospensione. Chi ci ascolta non ci può vedere, ma stavamo tutti imitando. Come Interstellar. Smorzatore inerziale. Esatto. No, sto pensando tanto che nel prossimo Mass Effect torna il mago. salsa. Beh, l'hanno fatto vedere in più della salsa, quindi vuol dire che ci deve stare. Voglio dire, in qualche forse modo. È il Mago Kart. Comunque, aspetta, torniamo un attimo sulle serie. Più che altro, la domanda che a questo punto vorrei fare anche a tutti. Anch'io ho una domanda da fare. No, io quella che volevo fare era perché voi, comunque, perché sicuramente avete almeno una serie favorita che tuttora decidete di comprare se esce un nuovo titolo, no? Sì. Di comprarlo subito e di giocarlo. Che cos'è che vi spinge a, a volere sempre la, la stessa propinata, la stessa sbobba? Oddio, è faticosa sta cosa. Eh, a parte Marco, ma io sono Mass Effect. Sì, vabbè, sì, anch'io penso che Mass Effect, pure se esce, mi dicono Mass Effect 4, il figlio di Shepard, me lo un, un Cotor, esatto, che non uscirà mai, per dire. Un Cotor, sì. Vabbè, ma in realtà Cotor è stato sostituito da Mass Effect. Witcher. Mass Effect è quello che avrebbe voluto essere Cotor e che non è potuto essere. Witcher, per esempio, Witcher, perché? Perché Witcher. Beh, Witcher poi esce. Perché? Perché scopa, no? Che si scopa. Che si scopa. No, brutto. Vabbè, a parte quello, no, perché comunque è figo. C'è cazzo. Bello personaggio. È fatto bene, sì, mi ha... fatto bene. Che mi aspetterò, diciamo, una cosa molto simile. E proprio per questo, siccome mi è piaciuta quello che ho già finora sperimentato. E poi comunque c'è una cosa che è diversa. E secondo me è anche la paura del videogiocatore, perché lui non è tanto aperto alle novità. Sì, ma è perché ci hanno fatto diventare così. Sì, esatto. Vi ricordate quando abbiamo fatto lo speciale in live, quando hanno presentato PlayStation 3, no? Sì. Anzi, PlayStation 4. O era quella dell'Xbox? No, era quella dell'Xbox. Ora quelle sono, non mi ricordo. Vabbè, comunque c'erano questi relatori sul palco e dicevano perché noi abbiamo abbiamo studiato il pubblico, il pubblico ci ha dato feedback e noi abbiamo studiato negli anni e abbiamo capito di che cosa avete bisogno. Abbiamo discusso tante volte di questa cosa, no? Cioè, di che cosa avete bisogno, tu me lo dici a me. Nel senso che alla fine le grandi industrie ti convincono di avere bisogno di cose che in realtà non hai mai avuto bisogno. E quindi almeno ci siamo abituati siamo stati lobotomizzati da loro. Quando uscivano, e voglio fare un paragone antico, quando uscivano i giochi di LucasArts, anche di Lucasfilm Games, anche se erano giochi diversi fra di loro, tu lo sapevi che cosa aspettarti. Vabbè, come quando ti compri oggi qualunque, ad occhi chiusi, qualunque gioco di Telltale, perché sai che cosa ti aspetterai come gioco. Esatto. Invece, siccome che questo nel mondo dei videogiochi non è detto che sia così, quando ti fanno 3 Uncharted e ti è piaciuto il primo, tu compri il secondo perché già lo sai che è quel tipo di gioco. Invece una volta sto meccanismo non era sul brand. Sì. Ma era sulla filosofia di programmazione, di sviluppo che c'aveva anche sulla software house, perché sapevi che ormai quella software house cioè... si era solitamente dedicava a quel genere, praticamente l'intero catalogo, l'intera produzione propria, no? Purtroppo sapevi che fondamentalmente, che so, LucasArts e Sierra erano sinonimo di avventure grafiche, così come sai che tutti i giochi Rockstar che Sierra ne è però, dico, come sai oggi che piglierai qualunque gioco che farà la Rockstar perché sai che è sinonimo del miglior gioco open world. Ecco, io quello volevo dire. E la sputata domanda per me, però chiamarla serie, metto tra virgolette, Grand Theft Auto. Esatto. Un gioco che compro sicuramente. Però non la considero una serie, perché... Però si è trasformato tanto. Quello che dico, la caratterizzazione dei personaggi, i personaggi sono sempre diversi. No, ma è evoluto proprio anche cinematograficamente, cioè, vuoi dire... È questo, secondo me, che fa la differenza rispetto a un Assassin's Creed. Io apprezzo il coraggio di una software house come Rockstar, che non soltanto ha comunque evoluto i suoi brand, li ha evoluti in maniera spaventosa, perché... Cioè, parlavamo ma già GTA 3, vuoi dire, era diverso dal 4 ed era... Dal 2 pure. E il 4 è inferiore al 5, che è anche tecnicamente un capolavoro. Sì. Ma ha anche sperimentato varie situazioni. Cioè, ragazzi, Red Dead Redemption, forse non sarà stato il gioco del secolo, ma quanto per me giocato? Per me sì, è tra quelli Rockstar che tra quei pochi Rockstar che sono riuscito anche a finire. Ma è il gioco che io ho sempre sognato, il gioco western, cioè il film western, capito? Cioè, sì, è il gioco di Clint Eastwood. Esatto, il simulatore di Clint Eastwood. Esatto, o anche Clint quell'esperimento di coso di Bully, Cane Merit, che pure quello, il simulatore della vita scolastica era Balli, o Canis Cane e Merit. E già lì c'era un'impronta, capito, narrativo cinematografica, ma anche, cioè, Noir, è l'esperimento di Renoir. Che era un esperimento, forse non ben riuscito, però ecco, allora quella è una software house che non ha bisogno, al di là del GTA, chiaramente, che è un brand che da solo è la metà di quello che ha fatto prima, esatto, è metà dell'industria del videogioco da solo. È chiaro, non sarebbero stupidi fare il contrario, però è una software house che esprime comunque un coraggio, forse anche perché accumula capitale. Invece è perché fa uscire un gioco ogni 2-3 anni, sì, no? Sì, ogni sì, anno. No, cioè, beh, loro, infatti... quanto è pronto il gioco? Vedi, questo non è serializzazione. Mm-hmm. Poi è un discorso veramente diverso. Esatto. Cioè, qua parliamo proprio di il proprio brand, evolverlo. Mm-hmm. E io, tu sai che un capitolo di GTA sarà diverso rispetto a quello prima. Le meccaniche sono quelle: mm-hmm. free roaming, salire, volare, scendere, uccidere prostitute. Cioè, quello fondamentalmente. Te l'aspetti, eppure perché ci vuoi giocare? Mm-hmm. Perché sai che ha una sua identità. Perché è un'altra storia. Un'altra storia. Esatto. Allora, questo... che la narrazione poi entra parecchio nell'interesse. Tra l'altro, non so, se avete visto i vari finali. Infatti, non è proprio come se una serie. Ecco, pensiamo per esempio, scusate, a Assassin's Creed. Sì. Lo metto come. Sì. Cioè, le storie sono diverse fra loro, giusto? Cioè, adesso sì, Unity no. con quella sì, di no. Connor, allora, con diciamo quella che i primi tre sono tutte diverse, anche se poi c'hanno il filo comune della sì, fine del sì. mondo e bla bla bla bla bla. Vabbè, però c'è anche c'è comunque a prescindere in tutte che si tratti di una società piuttosto di un tizio che sta. Il fatto di rivivere un passato, che rimutare un passato attraverso il proprio DNA. Se lavassero no? sta pippa dell'Animus e del fare esatto. forza fa la gente che esatto. scava anche lo muri, verrebbero dei giochi storici da paura. Lo vedi esatto. quello è il problema? Cioè, il problema è che la gente, Assassin's Creed, molto te è associato al pensiero che palle, per un motivo molto semplice. Che palle, virgola, i collezionabili. Pure. Perché non vabbè, quello però lo puoi. Sì. Cioè, una scelta tua. È diverso. Sì, cioè, sì. Io me ne sono sempre fregato sì. in generale. A meno che non ti sbloccano la però, scusa, della, Luigi della stava. Madonna, che ovviamente lì ho dovuto fare. Se la vuoi. Vai, Luigi, scusa. Niente. Perché non si interessa la storia. Ditemi chi è interessato. Per carità, la rivoluzione francese, la Francia, 1789, bla bla bla. Ma che alla gente cosa interessa? Perché non approfondisce? Così come non ha approfondito la guerra d'indipendenza. Posso dire, così esatto. come non ha approfondito sì. le crociate. Assassin's Creed, lo sapete qual è la rovina di Assassin's Creed? Il primo Assassin's Creed. Perché è un gioco, diciamo così, non approfondito, proprio perché non sapevano neanche loro che cosa doveva essere sto gioco. Però ha dato comunque l'impianto ricordiamo che era nato come prototipo di Prince of Persia, esatto. Ha dato però un impianto narrativo ai seguiti sì. che sarebbero comunque arrivati condizionandolo profondamente, come dice Marco, in effetti cioè, alla fine se tu avessi levato quel contesto dell'Animus da guerra tra Templari e Assassini e robe del genere, probabilmente avresti fatto veramente dei giochi anche di ricostruzione ma storica. Basta vedere l'ultimo che è uscito, che è Black Flag. Cioè potevano fare un gioco veramente sui pirati, che non c'entra niente, cioè che per non... me quello è la cosa meno Assassin's Creed sì. del mondo, se non fosse per le meccaniche del gioco, cioè capito, potevano fare un gioco su una storia piratesca di un marinaio che cerca di moda, sì, tra l'altro era un Monkey Island action, avrebbero loro fatto ed è motivo per cui paradossalmente è anche uno dei titoli del franchise che ora sta riscuotendo anche più successo. Ma vedi perché si è discostato? Perché esatto. oltre il setting c'è un'anima diversa sì. rispetto alla stessa Assassin's Creed. Io più che dire il primo è indirizzato per tutto il resto, quando ci sono grossi team sparsi in tutto il mondo che possono lavorare sotto l'egida di uno stesso tema, ti va a creare quello che si crea, una serialità dove si perde l'interesse per il contenuto storico, la storia, eccetera, e si va a puntare il fatto che Assassin's Creed è il brand. Bisogna comprarlo perché prosegue, c'è la statua, c'è quella. Questo è il casino di una grossa in realtà come Ubisoft nella fattispecie. Cosa che non farà Rockstar. Io ma infatti c'è proprio un'altra politica. Punto una cosa in particolare su Rockstar, che ha fatto una cosa grandissima, che secondo me il gioco The Warriors. Ah sì, bellissimo. Allora, il gioco The Warriors per me è una cosa che non si è mai ripetuta nella storia dei videogiochi. Prequel del film. Ampliare narrativamente un film dove non c'era una sceneggiatura prima del film, c'era il film e basta. Loro cosa hanno fatto? Tu giochi al film soltanto gli ultimi 40 minuti del gioco, mentre tu ora scoprirai 20 ore, 25 ore di giochi. Tutto il prima è coerentissimo e ti fa vivere i personaggi come potrebbero essere stati davvero sviluppati prima del film. Cioè, quindi ti porti il film con una coerenza, poi dici, ma io guarda, non ho visto solo allora The Warriors il film, io conosco anche una cosa che sta prima grazie a Rockstar Games. E tutti gli appassionati di Walter Hill del film The Warriors dovrebbero giocare al gioco di Rockstar Game, perché amplia narrativa. Ma infatti io penso che una bella puntata su Rockstar sarebbe bella farla, perché quelli che un po' schifano il fatto della cioè, come posso dire, La massificazione, diciamo, il fatto che è diventato un brand di grande successo GTA, allora dicono: ah beh, allora è ecco là il gioco che fa 150 milioni di miliardi, perché tutti i bimbo minchia vanno lì a giocare. In realtà questo atteggiamento, secondo me, è un po' snobistico, ma in realtà è penalizzante per una software house che invece ha costruito grandi cose e secondo me meriterebbe un bello approfondimento. Comunque, ritornando un attimo al discorso delle serie, io penso che, parlando anche con Marco in precedenza, cioè nel senso, è capitato di dire: vabbè, ma una volta nel passato, quando hanno fatto Pitfall 2, per esempio, e che al di là del fatto se è un concetto di serie o no, se è saga o no, roba del genere, quando hanno fatto Pitfall 2 è perché Pitfall era andato veramente bene. E però Pitfall 2 rischiava di essere anche diverso dal Pitfall 1, perché non c'era poi tutta questa ossessione di dover essere per forza la stessa cosa. Invece, ecco, diciamo, come Uncharted o addirittura Gears of War, ancora meglio, che so, gli sparamuretto, ma praticamente so tutta quella serie di giochi fatti in serie, perché la software house ti dà a te, che ti ha abituato ad avere quello, qualcosa che quando tu ce l'hai, ah, ecco, non sono più tranquillo, è quello che mi aspettavo, no? Perché c'ho gli stessi comandi nell'altra, che è una cosa, che è una cosa inquietante, perché in realtà la gente tende a voler essere rassicurata più che essere stupita. Esatto. Sì. È là che non si osa più, nell'arte in genere, nella cultura, in chi produce contenuti artistici. Però questo è un discorso poi a parte. Sì, no, però voglio dire, nel senso, fa parte del discorso delle serie, cioè è inquietante un po' sta cosa, Marco, non so se... Sono inquietante. Sì. Sentirsi a casa. Diciamo che ti vestono, ti fanno calzare il gioco, più che invece metterti davanti un prodotto che potrebbe in qualche modo sconcertarti, ti danno il calzino e te lo mettono lì. Qual è il gioco che poi magari è diventata una serie che va sconcertato? Così, non c'entra niente, però. Che mi ha sconcertato perché ci abbiano fatto una serie, abbiamo detto subito a Lucius. Che ti ha sconcertato il fatto che ci hanno fatto una ma serie. Ma perché? No, il gioco che va sconcertato e che poi magari è diventata pure una serie, ma non è necessario, insomma. Così è una cosa un po' sconcertato, è difficile perché poi però c'era quel gioco, non so se voi ricordate, che abbiamo parlato una volta nella puntata forse quella del doppiaggio, vi ricordate? Mm-hmm. C'era quel gioco malato che di cui hai parlato te, che ti ha fatto scoprire qualcuno, te lo sei comprato, quello dei criminali che stanno dentro la prigione, ti piscio sulla tomba, sempre Rockstar, sempre Rockstar. Il gioco Rockstar, ovviamente. Quello è un po' sconcertante, è sconcertante ed è un'operazione provocatoria per l'industria del videogioco, che non era pronta l'industria quando era nel 2003 quando è uscito il gioco, non mi ricordo adesso. Ah, quella cosa simile, una cosa simile. Era proprio cattivo gusto, contro mobilitare la censura, mobilitare le associazioni, diciamo, contro la violenza. Infatti, al museo del videogioco, Menant non l'abbiamo visto. No, eppure è una grande opera. Quale museo del videogioco? Quello di Berlino, ovviamente. Ah, no. Perché ce ne stanno altri? No, non lo so. Quello di videogioco, no, perché. Una serie, poi hanno fatto anche il secondo che carino, forse lì già avevano, era censurato con Italia, c'era quell'altro gioco, però non mi ricordo di chi era, no? Vince chi seppellisce la bambina morta, no? Quello lì che veniva, Torque si chiama il protagonista, che veniva incarcerato, bellissimo, non si sapeva se aveva ammazzato la moglie, non si capisce, sì, primo lui è diventa fantastico, una bestia, The Suffering. Esatto, Suffering, quello di chi era? Non mi ricordo se sono la versione. Però sapete che un gioco che mi ha sconcertato è stato il primo Max Payne. Ah. Ha sconcertato, nel senso, ci sono dei momenti in cui mi aveva. Forse io non ero ancora pronto al fatto che anche il videogioco potesse trattare temi così importanti. E poi stavano quelle scene disorientanti quando lui c'era la striscia di sangue, cose che lui. Quando stava stordito. Ma sia il primo che il secondo. Ma disturbato, ecco, disturbato sin dalla prima dai primi 5 minuti del gioco, no? Quando va in quel vicolo buio con le carrozzine, e poi ci sono quelle specie di bambini là che ti attaccavano e tu poi ti risvegliavi nella tavola calda. Facevano quel simpatico, ma guarda che Pensa, esatto. Pensa che secondo me la genialità di Silent Hill è tutta lì. Perché so quei 15-20 minuti del gioco iniziale, sì, che ma ti neanche, buttano che 10 minuti dentro, esatto, e da lì non ne esci più. Cioè, c'è cazzo. Perché se non ci fosse stata quella scena, forse l'avrei spinto. Però, stranamente, Silent Hill, come vedi, non è riuscita a rimanere seriale come, ecco, come gioco, perché ha provato anzi a innovarsi, come fu, se ti ricordi, anche col 4 The Room, che c'aveva le fasi pure in prima persona eccetera, e invece non è... troppo era troppo anche, legato, anche da un pur non era poi alla fine troppo legato cosa, probabilmente al fatto che Silent Hill è un sì, posto dove succedono cose strane fondamentalmente, sì, dove ti fa sempre comunque invece cosa legata a quel posto. La domanda carina potrebbe essere, so, forse è quello che si è perso molto lo stupore del primo gioco, alla fine, ma no, perché comunque aspetti che succeda Silent Hill è sempre diciamo il proprio inferno personale che tu vivi, tant'è che infatti sì, però dopo ho già altre interazioni che sono belli, per carità, no? Però cioè oramai c'è il primo, cioè, ma secondo me in generale, ma scusa, perché allora Silent Hill appunto si è anche con lo sviluppo ha cambiato, se ricordiamo, mi pare quelli di Room erano forse anche quelli del Downpour, no? O erano altri, comunque è cambiato tra vari software, tra vari sviluppatori, sì, giro, sì. Mentre invece com'è che per esempio la serie di Resident Evil tuttora, con tutto che diciamo peste e corna degli ultimi capitoli, ma sta continuando a produrre, infatti la domanda che giochi sia della serie principale che anche spin-off, che continuano ad essere pure serializzati, come appunto tipo anche l'ultimo Revelation 2 che, sì, che è stato annunciato. La domanda che vorrei fare io è questa: quali serie hanno fallito? Quali serie, quindi anche chiudendo, sì, quali serie invece hanno vinto, diciamo, quindi magari continuando anche con successo, e quali serie non hanno né vinto e né perso, ma continuano a stracinarsi avanti? Perché per esempio già Silent Hill, il fatto che si è reinventato in tanti salsi, in tante maniere, è un tentativo di sfruttare il brand, anche quando il brand ha rischiato di defungere, diciamo così, di morire. Non so se sentiamo, partiamo da Luigi. Ho avuto un lapsus, sì, poi ovviamente poi, sì, poi ovviamente Giuseppe, poi Marco, sì, e poi Marco dopo ha risposto, riprende un attimo il filo della questione. Allora partiamo, le serie che hanno fallito, che secondo te hanno fallito? Beh, io penso, lasciando perdere le vendite o la risposta, sì, penso Assassin's Creed sia una di quelle che ha fallito. Che ha fallito. Cioè, nel senso, nell'immaginario più che non altro, economicamente, ovviamente. Non senso, economicamente. No, sì. Lui intende. Sì, dico, sì, si perde facilmente interesse per se vogliamo parlare di cultura del videogioco, quindi non di vendita. Sì. Si perde facilmente interesse a pilla in Assassin's Creed, ma chiunque ti potrà dire quanti ne sono usciti, non ci sto più dietro, la frequenza è alta, la diversificazione fra piattaforme, che secondo me è considerato un fallimento dal punto di vista culturale per l'immaginario. Facciamo così, ognuno dice una serie che secondo te ha fallito e una che invece è riuscita, così rimaniamo. E però c'è pure quella intermedia, cioè quella che non ha né fallito né però. Allora una intermedia è dura di rene, su BioShock. BioShock si è ripreso, sì, l'ultimo capitolo, e quindi rischiava di fare un grosso capitombolo con il secondo, che non aveva mordente, c'è quel carattere, parliamo sempre di autorealità, con l'ultimo Infinite è riuscito a riprendere, questa è l'intermedia, quindi vale la pena avere BioShock da questo punto di vista, tutti e tre gli episodi. L'altra serie invece, quella che ha vinto, che secondo te ha vinto, sì, che ha vinto. Allora, il fatto che c'ho un'idea strana in mente, nel senso, sto pensando a Alan Wake, che però non è considerabile serie, anche se all'interno c'è una serie all'interno, anche se è un episodio, certo. E quindi là mi fa pensare che la potrebbe essere una forma vincente, però non sto nell'immaginare la percezione collettiva che ha vinto una serie, Serpent, ma anche GTA, no? Sì, però non la considero serie. No, infatti non lo è, pure, cioè, secondo me. Sono personaggi diversi, sì, sono storie slegate, per quanto alcuni melting pot si credono anche lì, no? Diciamo che il mainframe generale dei giochi Rockstar più o meno è quello, ma come dici te, in effetti non, sì, non c'hanno connessione se non magari un certo tipo d'ambiente, ambientazione, così, insomma. Sono stato lieto che sia finita l'epopea di Shepard in Mass Effect col terzo. Ed è giusto così, sì. È giusto, cioè non c'è più la sorta di esasperazione. Fai già farlo tornare in vita nel secondo. Per me è stata una botta grossa perché... è stato un azzardo più che altro. Sì, chiudo perché dico, era così umano nel primo che nel secondo l'hanno stravolto, lo vuole... c'era un altro appeal. A me, devo dire la verità, il secondo non è che mi ha fatto proprio impazzire. No, non era più bello. Da questo punto di vista, da questo punto ha ripreso un po' il terzo, ma sì, cioè, ma il personaggio sarà già trasformato. Sì, no, il primo per me rimane memorabile. Sì, quando sì. c'è l'assegnazione a Spettro, quando sì. senti l'umano che finalmente ha voce nel consiglio. No, ma c'era proprio questo senso di beh. Oh, siamo nuovi. Dov'è il bagno? Sì, capito? Cioè. Sì. E quella era una cosa bella, allora, bella, bella. Sì. Vai. Io come serie che ha fallito innanzitutto mi dice, Mario, cioè Super Mario. La, eh? Super Mario. No, no, no, invece quello sarà un altro esempio che volevo comunque citare. No, che ha fallito ovviamente, vuoi anche la mia vena da giocatore, appassionato di giochi di ruolo, Final Fantasy. Che ormai si è completamente persa. Vuoi anche per tutta la fuoriuscita dello staff creativo, quindi ha perso di fatto la sua identità, sì, identità seppur mantenendo il suo titolo e alcuni diciamo dei suoi elementi più canonici, quindi in qualche maniera farci rientrare cristalli, cose steampunk e gente con armi di grandezze assurde che cerca di menare pendenti, no? Sì, sì, sono d'accordo al mille per mille. Si è ormai trasformato in questa specie di accozzaglia sempre di tizi emo eterosessuali mica da emo omosessuali anche esatto. che vanno in giro con spadoni e capigliature improponibili con la faccia triste sempre abbassata verso il basso, dire ma me lo dai? Una serie invece che appunto secondo me è riuscita ma non a spiccare, cioè a chiudere in bellezza, invece ci metto quindi in quello intermedio, io Mass Effect, che appunto è partito sin dall'inizio in pompa magna, ha continuato in maniera interessante, comunque a me il 2 è dispiaciuto, il 3 mi è piaciuto, però avrei comunque preferito un finale ancora più col botto, esattamente come la partenza. E purtroppo diciamo qualcosa se l'è per diverse ragioni se l'è cioè bruciato. Il finale di Mass Effect te lo aspettavi più col botto? Avrei voluto un finale col botto come è stato il finale sia la partenza di Mass Effect 1 che anche il finale, vi ricordate, epico del primo. Eppure però penso che secondo me non del finale del 3, ma anche tecnicamente, cioè io parlo dei filmati, diciamo che, delle cose, no, non lo inserisco in un, secondo me non c'è stato gioco con un finale sì, dico, tanto ma io epico. Non lo però non lo inserisco comunque diciamo tra quelle serie che hanno proprio chiuso, cioè sono rimaste dall'inizio alla fine impeccabili. Beh, diciamo che perché si è persa tanti pezzi comunque, ma sì. Come invece anche narrativamente, sì. Cioè. No, ma anche a livello di scrittori. Sì, pure sì, sì, sì. No, ma appunto narrativamente ha perso tanto. Quello che tu mi dicevi che era il fallimento, invece secondo me è il più il coronamento, quello che vorrei, il sacro graal del videogioco che vorrebbero, delle serie che vorrebbero tutti, che invece è appunto un successo come quello di Nintendo con la sua serie Super Mario, che nonostante ci proponga a qualunque iterazione, non dico ogni anno perché non esce esattamente ogni anno un vero e proprio Super Mario, comunque sappiamo che ogni Super Mario che esce, indipendentemente dal numero di poligoni che su schermo che smuove o dal fatto che sia bidimensionale, si tratta sempre comunque di superare una serie di livelli saltando. Noi comunque ci sta bene e ci rende forse felici. Fino a 42 anni per me il concetto di videogioco si è trasformato radicalmente negli ultimi 10 anni, questo è, quindi io non riesco a comprendere sta cosa, ma capisco invece, cioè lo capisco nel senso che ha senso chiaramente per un videogiocatore, però ha perso il senso per me, diciamo sì. così. Ed è anche una, scusami, è anche una delle poche serie che comunque riesce a mettere d'accordo grandi e piccini, utenza vecchia e utenza nuova. perché comunque a chiunque dai un Super Mario solitamente, tranne te che ovviamente sei, ma anche lui guarda, tranne voi due che siete proprio le pecore nere, comunque in generale non gli dispiace. No, vabbè, giusto. Vai, Marco. Le serie che invece sono decollate, che in realtà lo sai, che è The Witcher, secondo me. Che comunque ha... Anche, non l'ho voluto... Scusa, posso dire una cosa? Io lo escluderei The Witcher, cioè fallo finire. Allora, parla solo di serie. Però fallo finire. No, comunque già avrà successo, già è annunciato, anche se farà cagare, comunque avrà successo. Secondo me sarà comunque una grossa storia, magari anche perché secondo me non mi aspetto cose particolari nel finale, sarà piuttosto regolare, tranquilla negli schemi tra virgolette, per cui secondo me continuerà nel filone che è stato già approntato nei primi video, partendo poi tra l'altro comunque con un primo Witcher che alla fine è uscito ma quasi non se ne è accorto nessuno. Non se ne è accorto nessuno e comunque era già radicalmente diverso dal successivo. Le saghe, diciamo, almeno a livello di gameplay. Diciamo. Sì, sono due giochi completamente. Le serie che invece secondo e questo me... secondo me a me ha disorientato. Ma piaciuto, No, però mi ha disorientato tanto. Invece serie che hanno sbagliato. Fallimentari in tutti i sensi sono Blood Rain. Conoscete Blood Rain? Quello secondo me era cominciato con un gioco d'azione sporco dal punto di vista, con un dumpir che andava a cercare il padre vampiro. Era nazista, c'erano i nazisti, c'erano le cose soprannaturali e lei era una vampira gnocca. Nazista e soprannaturale ci stava pure nel penultimo Wolfenstein, ti ricordo. Però lui non era una figata. Esatto. Che poi c'è il numero 2, il secondo capitolo, che me lo ricordo soltanto perché era l'unico titolo che mi andava con la scheda che ha sbagliato. Per il resto. Il che è tutto dire. Altri giochi che erano peggio. E lo ricordiamo anche per Uwe Boll. E invece giochi quelli, diciamo, che sono riusciti, quindi intermedi, sono riusciti ma non fino alla fine. Io ci metto Call of Duty. Lo sai perché? Mm-hmm. I primi Call of Duty, che sono quelli storici, non erano film, ti raccontavano un pezzo di storia vista da tre soldati di tre fazioni differenti. Grande medesimazione, erano fatti bene. E comunque ti facevano vedere, che ne so, i russi che si allenavano invece che quei bomba a mano a tirare le patate zecchi, che quando facevano lo sbarco a Stalingrado, andavano uno con un fucile e un altro con il caricatore. Cioè, ma come, io non ti preoccupare, che il fucile lo troverai. Quante ne troverai munizioni e fucili, quanto ne pare, cioè nel senso belli carne da macello. Sì. Cosa che poi è andata a perdersi nel tempo, perché adesso abbiamo degli banalissimi sparatutto, dove si trovano magari tecnologie ultra all'avanguardia. Sono il pretesto per multiplayer. Spari nello spazio. Cioè, si arriva nello spazio, ma alla fine che ti stanno dando? Ti porti appresso il cane. Nello spazio. No, nello spazio non c'è il cane. Però potrebbe essere il prossimo. Esatto. O spari sott'acqua con i pesci. Cioè, c'è anche la famosa pistola che spara colpi. Che poi avete visto. Vabbè, se avete ascoltato l'ultimo Geronto Gamers, lo sapete. Ritornerà. Quindi Call of Duty, diciamo, dici che effettivamente ha cominciato bene. Era ovviamente uno sparatutto. Però era ambientato. Diciamo, uno scorcio di pezzi di storia della seconda guerra. No, ma era fatto proprio bene. Si è persa sacrificandosi sull'altare del facile guadagno. E le luci che sbrilluccicano. È il bimbo minchia che ha distrutto il videogioco, ragazzi. Ricordate questo. Io c'ho, guarda, le mie sono semplici perché Telltale. Attenzione, perché qui scioccherò alcuni fan. La grande serie che secondo me non ha né vinto né perso e che quindi si è stracinata è Monkey Island. Perché Monkey Island è una grande serie che poi non ha né vinto né perso, perché si è stracinata in un modo. Io lancio la provocazione. Sfiorando anche il ridicolo. Per me tutto quello che va dopo Monkey Island 2, neanche 3. No, il 3. Due. Il 3 è bello. Sì, il 3 pure mi è piaciuto. Però per me, io avrei preferito continuare a vedere la storia dal punto di vista di Ron Gilbert. Sì, che a quanto pare è l'unico che crede di sapere effettivamente come nella sua testa come sarebbe dovuta proseguire. Sì, no, infatti, poi leggendo i blog di Gilbert anche negli anni, insomma. Sì. Però lui sempre con moderazione, molto più moderazione di Tim Schafer, sì, che Schafer, che invece però comunque quella, sta un attimo un trippato, comunque pure insomma, quella hanno cercato di, diciamo, di continuare a trascinarla su facile guadagno. Vedi anche coso Taylor, no, no, infatti appunto è la serie che non ha né vinto né perso, esatto, perché come dicevo dopo il 3 è la morte, fino ad arrivare ovviamente al Monkey Combat lì, insomma, quello è stato il momento Escape from Monkey Island, che era, è stato penso, il momento più triste della storia del videogioco in assoluto. La serie che ha vinto, secondo me, anche se non è la serie, cioè, per me Mass Effect, come ha detto Luigi, è inutile, cioè vedi, veramente ho comprato due console, un computer e una console, ho sbagliato una e mezzo, sì, insomma, solo per giocare a quel gioco lì, perché forse è il gioco che ho sempre sognato, e quando, no? E quando uscirà sicuramente annunciata tra qualche mese il remastered di 1, 2 e 3 per PlayStation 4, finalmente ti comprerai PlayStation 4 per rigiocarci, ma stai sicuro? Non lo so se le rigiocherò, perché l'ho giocato recentemente tutti e tre di fila. Perché anzi è stato proprio come mi è arrivato il PC a casa, che ho detto a Marco: dammi i tre Mass Effect, perché me li devo sparare tutti e tre di fila, perché era l'esperienza che volevo fare e che me l'ho sempre fatta intera. Però stavolta non ha avuto il coraggio di personalizzarsi, per no, ho lasciato, perché l'ha fatto due volte e due volte si è squagliata la cosa, esatto, quindi. No, ma perché poi in realtà mi ero affezionato proprio a Shepard per quello che è in realtà il personaggio, paradossalmente piacere. Diciamo un personaggio che in un gioco di ruolo sarebbe dovuto essere, diciamo, anonimo, quello deve essere così un placeholder per le pubblicità, alla fine riesce comunque a diventare il simbolo della serie, no? È bello che non abbiamo parlato per niente di grandi saghe, sto pensando a Tomb Raider, Metal Gear, pensando sì, a... È vero, Metal Gear, forse più Metal Gear, Tomb Raider, sai? Metal Gear comunque io la metterei ancora tra quelle che hanno vinto, di successo comunque. Che hanno vinto. Anzi, che anzi si stanno però pure continuando per certa maniera a innovare, perché ora diciamo capisco che non è chissà che a quanto pare... A me la bella, però comunque la Phantom nuova. Pain comunque sembra... Che abbia comunque quella verve di frizzante di novità, no? È l'unica cosa che non mi piace di Kojima sono le macchinazioni, le cose. Vabbè, ma quella è quella è la narrativa giapponese. Infatti, ma non riesco a dire, cioè, si mischiano le cose. Tomb Raider, se non avessimo visto appunto da cos'è, due anni fa già. Questo reboot, direi che l'avrei messa tra quelle morte. Invece, effettivamente, sì, sembra che questa nuova rilettura in chiave moderna, sì, come vigile. Sì. Abbiamo parlato di serie importanti, secondo me. Anche si chiama sto pensando Dead Space. Dead oppure... Space, no, secondo me Dead Space oppure... è quella riuscita parzialmente. Okay. Perché Dead Space, sì, dopo il primo, già un po' così. Perché il primo è veramente. Il primo era proprio horror, agghiacciante. Cioè, spaziali. Il secondo già era più sul. Già visto, e noi siamo i così. Chuck Norris. Non voglio essere brutale, ma io stavo parlando. Sì, scusate. Scusi, signor Pizzi. Che cazzo. Dovrei dire una cosa molto intelligente. Esatto. Ricorda? No, comunque. Mass Effect, anche se penso che una vincente, veramente vincente in quella generazione è stata proprio Uncharted, che per quanto è comunque ha spaccato. Uncharted comunque non è morta, ricordiamo che no, vabbè, questo mi preoccupa di PlayStation 4. Questo mi preoccupa di più. La serie che secondo me invece ha fallito, ma non tanto per sempre per parlare di BioWare. Dragon Age ovviamente. Ma perché era la serie dalla quale io mi aspettavo veramente tanto. E mi aspettavo quel coraggio. Aspetta, fammi finire, perché sennò sì, poi dopo non. Mi aspettavo quel coraggio che loro hanno dichiarato e che in realtà non hanno avuto. Sì. Perché quel ritorno al voler ricostruire delle meccaniche da vecchio gioco del ruolo, e che sì, ci stanno, ma anche no. Sì. Quindi, voglio dire che in realtà sì, è vero che se lo giochi a medio. Se lo giochi a difficile è il gioco difficile. Sì, ma non abbiamo tutta quella libertà che poteva avere come in Baldur's Gate. Perché ti ricordo che in Baldur's Gate, soprattutto nel primo, c'erano tante di quelle locazioni che a volte erano pure inutili. Ai fini anche di quasi tutto. Però comunque ci potevi andare, potevi esplorare, eccetera. Qua no, qua ogni volta era asservito a tutto alla trama principale, praticamente. comunque Dragon Age. Io Halo non ci ho mai avuto feeling. Per me, sai che Halo è. Secondo me non ho mai giocato un Halo. Io ho giocato il primo Halo su PC. Quindi è come se non esistesse per me. Poi... quando sento parlare di Halo, sento parlare di una cosa che per me è aliena. E non... sempre Gears of War, una serie che è importante. War, giocherò sempre il primo su PC, poi hanno deciso di non farlo. Gears of War al secondo già mi aveva rotto i coglioni. No, no, veramente, cioè lo dico nel senso che rispetto a Uncharted, che comunque magari forse per il tono più brillante, quello che ma anche per l'ambientazione, perché forse ti piaceva di più l'ambientazione all'Indiana Jones. Ma non è solo perché a me o film, diciamo, o film d'azione piuttosto che l'ambientazione di mutanti. No, non credo, perché a me il primo è Band of Brothers, perché a me è piaciuto pure tanto, cioè, anzi devo dire che il primo Gears of War mi è proprio piaciuto, cioè mi piaceva, c'aveva una sua originalità, e che il secondo e il terzo sono identici, cioè proprio identici, con la stessa atmosfera, stessa decadenza. Vedi? Ma che cazzo stai a combattere a fare su un pianeta che oramai è tutto distrutto? Vattene a fanculo da un'altra parte, cioè, vedi? Oh, una serie secondo me che ha vinto è Legend of Zelda. Sì. Ci fate caso, è proprio una saga, non si può dire serie. Sempre la stessa cosa, la storia è quella, eppure tu hai voglia di giocarci per perderti in quel mondo. Come Mario, come lo diceva lui. Quella non è vincita. Vabbè, non a caso le serie di Nintendo sono quelle. Vabbè, a questo punto dovremmo tirarle fuori quasi tutte. Vabbè, ma Marco, non so se volevi stringere o chiudere qualcosa, perché in realtà il nostro tempo è troppo. Sì, beh, già. Troppo. Però prima di chiudere, almeno lanciamo ovviamente l'accorato appello affinché i nostri ascoltatori ci dicano, commentandolo in tutte le varie parti via mail a questa puntata, ai commenti della puntata, del post su Dietrologia, eccetera, quali sono le loro serie che hanno sfondato, quali... le serie in, le serie out, esatto, le serie medie, esatto. Allora, che cosa vedono i nostri utenti di sbagliato nel fare questa serializzazione o queste saghe prolungate, a volte troppo reiterate, rispetto al passato, e quali sono appunto le serie che hanno vinto, le serie che hanno pareggiato e le serie che hanno chiaramente perso. La cosa vedono anche di positivo, perché magari ci sono degli aspetti positivi che a noi ci sono sfuggiti. E a questo punto io lancerei la prossima rubrica, dove c'è l'amicherrimo, ovviamente c'è la famiglia Giraldi. La famiglia Giraldi, sapete, c'è il nostro amico Cesare Giraldi, che è quel ragazzetto molto giovane che fa parte di Trilogia Videoludica, ma per essere un ragazzetto molto giovane dimostra di avere una grande cognizione della cultura del videogioco e soprattutto dei videogiochi in sé, sa comunque anche commentare i videogiochi, non è un fottuto bimbo minchia come quelli che quando stai online ti dicono vaffanculo te, lo fa anche lui, però lo, però lo fa con lo sappiamo, nickname, fa con nickname, ci piace pensare che sia così, quindi ci colleghiamo, Cesare, quindi Cesare Giraldi con il fratello, ci colleghiamo a casa Giraldi, quindi i due Cesari e Luigi. Di cosa ci parlano? Ci parlano di Total War. E questo War. E tutto questo ovviamente in Non Solo Capre. Non Solo Capre. Salve a tutti ascoltatori di Dietrologia Videoludica, io sono Cesare Giraldi e sono qui per registrare la rubrica Non Solo Capre, che si occuperà di giochi simulatori e strategici in netto contrasto con giochi come Goat Simulator, che hanno un gameplay decisamente dimenticabile. Alla mia destra ho qui seduto un espertone di giochi strategici. Presentati, espertone. Sì, sono suo fratello, un saluto a tutti gli amici di Dietrologia Videoludica. Lui, diciamo, è una new entry, un ospite speciale che mi aiuterà a descrivere meglio una serie di strategici particolare, serie che possiamo dire essere caratterizzata da un gameplay duplice. Ce la vuoi introdurre? Sì, si tratta della serie Total War, che è una serie molto particolare, perché ha una struttura gestionale tipo Civilization, ma le battaglie, al posto di essere risolte dal computer in automatico, si possono gestire su una mappa tattica con migliaia e migliaia di uomini su schermo. Il mio primo Total War a cui ho giocato è stato Rome 1, ormai quasi 10 anni fa, che è anche il mio capitolo preferito di questa serie, per, diciamo, la parte gestionale, che secondo me fa la fortuna o la sfortuna di tutti i capitoli di Total War. La parte gestionale di Rome 1 per me è insuperabile, perché si possono costruire tutti i possibili edifici dando potenziamenti per le città. Mentre invece già nel secondo, in Medieval 2, che è il capitolo successivo, c'è una limitazione a questo, perché si è inserito una parte di una separazione tra città e castelli. In quelle città si usano soprattutto per fare soldi fondamentalmente, mentre invece i castelli si usano per produrre soldati più potenti. E quindi questo capitolo è molto bello, mi è piaciuto, ma mi è piaciuto meno rispetto a Rom 1. Questo espertone mi salta già i punti della scaletta. Espertone, questo era il secondo punto della scaletta, no? Medieval, aspetta un secondino, parliamo di Rom. Io ti volevo chiedere, parliamo di Rom. Ma di Rom in particolare, sì. Perché ti è piaciuto così tanto? Qual era questo spunto particolare? Cos'era la storia romana, l'ambientazione? Che cosa ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tutto, la storia romana, l'ambientazione... anche perché sono abbastanza un appassionato di storia e questo gioco porta anche a, diciamo, approfondire alcuni aspetti della storia che magari non tutti conoscono perfettamente. Ah, ok, grazie mille. Prego, prego. Invece a me è piaciuto di più Medieval 2, te lo dirò, guarda, perché a quella l'ambientazione medievale di primo acchito mi piace di meno di quella romana, che ha un fascino maggiore anche su di me. Però per quanto riguarda il gameplay... credo che ci sia stato un passo in avanti, uno scattino in più, direi sotto tutti i punti di vista. Oserei dire anche che l'aggiunta, per esempio, di mod con cui ho giocato un numero infinito di ore, come Bellum Crucis versione 6.2 mi sembra, che aggiungevano tantissime nuove features, un'attinenza storica ancora superiore e delle fazioni nuove, quindi una sensazione di immersività superiore, hanno contribuito a questa sensazione di superiorità rispetto al capitolo ambientato durante il periodo romano. Quindi direi che possiamo andare avanti, perché abbiamo già analizzato bene Medieval 2. Ti volevo chiedere, ma secondo te questo tipo di giochi, tra l'altro Medieval 2 è anche uno dei miei giochi probabilmente preferiti in assoluto, possono spingere una persona a informarsi di più, a approfondire a livello storico il periodo che è preso in esame nel gioco? Sì, come ho già detto, possono spingere ad approfondire, soprattutto con le mod, perché ad esempio in Bellum Crucis ogni anno che passa c'era una casella di testo che ti informa di tutti gli eventi importanti accaduti in quell'anno, storicamente. Per cui sì, può spingere un non appassionato a informarsi su queste cose. Ma facciamo un salto in avanti, perché noi... siamo sempre sul pezzo nel dietrologia, saltiamo un pochino oltre, andiamo ad analizzare i giochi più recenti. Parliamo di Shogun 2. I giochi più recenti sono Shogun 2 e anche l'ultimo uscito, Rom 2. In entrambi la parte gestionale è molto diversa rispetto ai primi due di cui abbiamo parlato, perché non c'è più la possibilità di costruire tutti i possibili edifici o quasi tutti, ma bisogna scegliere accuratamente per ogni città o per ogni regione che cosa costruire. E questa è una cosa che a me non è piaciuta molto, perché a me piace avere tutti i potenziamenti sempre al massimo invece di dover scegliere tra quali dover mettere. Ma forse bisogna approfondire un aspetto, perché trattando i primi due capitoli non abbiamo specificato bene, cioè questa parte gestionale su mappa dove vedi il planisfero, fondamentalmente la zona, più che il planisfero, la zona in cui è ambientato quel capitolo, perché in Shogun 2 ovviamente sarà l'area del Giappone, in Rom sarà l'area europea, ovviamente del Nord Africa e un pezzo di Asia. Ma quando tu sei su questa mappa, che cosa succede al gioco? Cioè, come scorre avanti il tempo? È diviso in turni? Devi gestire delle città, delle regioni? Spiegalo un pochino meglio. Il gioco è diviso in turni e bisogna gestire, come in Civilization, si hanno delle città, ma al posto di poterle costruire dove si vuole, le città sono fisse e bisogna gestire la costruzione, l'evoluzione di queste città dal punto di vista economico, della popolazione e degli edifici militari. Ah, ok, quindi c'è anche tutta una parte, diciamo, legata ai soldi che hai citato prima, quindi ovviamente sì, l'economia, in quelli più nuovi c'è anche una gestione delle risorse che bisogna controllare per poter avere l'accesso a edifici particolari, diciamo, alle risorse del territorio, alle risorse finanziarie. Poi ovviamente ognuno può potenziare la propria città nei modi che preferisce, quindi ad esempio se vuole puntare sull'ambito agricolo può aumentare quel tipo di infrastrutture, se invece vuole fare una fazione estremamente florida per quanto riguarda i commerci si può aumentare questo tipo di strutture legate appunto ai commerci, quindi il mercato, tutte queste cose qui, anche le strade volendo. Credo che, almeno per quanto mi riguarda, nei capitoli nuovi, vedi Shogun 2 che io non sono riuscito a approfondire, soprattutto per l'ambientazione giapponese che non mi affascina particolarmente, si possa dire che non è stata più data la possibilità di potenziare la città sotto tutti i punti di vista, cioè bisognava fare delle scelte particolari, quindi il giocatore, essendo costretto a non potenziare la città sotto tutti gli aspetti, gli si sono state imposte delle scelte che in realtà non avrebbe voluto affrontare. Esempio, io mi ricordo che in Rome Medieval potenziavo tutte le città al massimo fino a che potevo e fino a che ovviamente le finanze mi sostenevano, senza dover scegliere nulla di particolare. Invece in quelli nuovi, appunto, per esempio Rome 2, di cui tu sei un pochino più esperto. Sì, in Rome 2 bisogna scegliere come potenziare. In Rome 2 si ha la divisione, al posto che in singole città si ha la divisione in regioni, che sono composte da 2, 3 o 4 città, e per ogni regione bisogna scegliere se potenziarla dal punto di vista militare o economico o commerciale, ma non si può fare più di una scelta, bisogna sceglierne uno solo fondamentalmente. Ok, quindi tu consiglieresti ai nostri ascoltatori Rome 2 o Shogun 2? Sì, io consiglio tutta la serie Total War senza dubbio, però per me i capitoli più belli sono Rome 1, fondamentalmente Rome 1 e Medieval 2 con un po' di mod. Ah, ok, quindi diciamo che sono per te dei giochi imprescindibili, però con una piccola preferenza verso i capitoli più datati rispetto a quelli più moderni. Sì, soprattutto per la quantità di mod che veramente cambiano il gioco completamente. Ad esempio c'è anche per Medieval 2 ci sono mod che trasformano il mondo nella terra di mezzo e si controllano elfi, uomini, nani e orchi, quindi c'è veramente di tutto. È una grande risorsa del PC gaming. Invece per quanto riguarda i due capitoli che non abbiamo analizzato, quelli più vecchi, tu ne sai qualcosa? Perché io personalmente, non avendoli giocati, mi sono un pochino informato, però non mi sento in grado di parlarne. Tu vuoi chiudere parlando un minimo di questi qua o preferisci evitare? No, io non ne so niente, non li ho mai giocati. Ah, perfetto, siamo ignorantissimi. Questa è una rubrica assolutamente a caso. Comunque io direi che per chiudere, tu hai detto che il tuo capitolo preferito è Rome 1, direi sì. Rome 1, io invece dico che è Medieval 2, soprattutto con Bellum Crucis, che è una mod incredibile, tra l'altro se non sbaglio anche italiana, sviluppata da italiani, e quella è un'altra aggiunta importante. Benissimo, saluto i nostri ascoltatori dato che il nostro tempo è ormai concluso. Ciao a tutti, vi saluto anch'io e ci sentiamo alla prossima volta. Grazie Cesare, grazie ovviamente al fratello del quale ignoriamo completamente il nome, non so se poi... Sempre Luigi, ignoriamo la faccia, diciamo le fisionomie. Specifichiamo che non sono loro capre. No, non solo capre loro, non solo capre, perché abbiamo spiegato che cosa è questa rubrica. Allora a questo punto, prima di andare alla posta, noi continuiamo a riposarci e farci un attimo due risate fra di noi, perché ovviamente c'è il secondo inserto che ci ha mandato la mail Big, che diciamo proprio adesso, cioè, senti, io voglio la mail con le capre, ce l'ha mandato una mail caprina, ci ha mandato questa mail caprina in cui ci dice che vuole partecipare a questa puntata, e quindi che mi lanciate la linea, e lanciamo io la linea a appunto 50 sfumature da dirci. Quanta sfumature di Biggio. Pronto? Ehi, Nasco? No, guarda, sto fine settimana. No, non posso. Devo giocare a Destiny. quel gioco lì di sparare ai mostri che le armature. Il gioco di sparare, sì, sì, sì. No, non mi frega niente chi c'è, chi non c'è, chi c'è, chi fa il compleanno. Il tuo. Vabbè, non ci posso fare niente. Ascolta, ma se... No, no, no, no, non fa. No, guarda, poi c'è un casino. Devo farmare risorse, devo... La volta di vetro non l'ho ancora vista. No, sono bloccato da 2 settimane al 25, credo, 26. Non mi ricordo neanche che livello sto. No, no, no, mi interessa. No. Quello possiamo vedere. No, no, ma c'è, guarda, è un casino. Cioè, lì non c'ho un'arma esotica, non c'ho, c'ho neanche tutta l'armatura leggendaria, guarda, lascia stare. Non farmare reputazione. Come World of Warcraft. Peggio. Meglio, dai. Più semplice. Della democrazia cristiana, comunque, sì. Gioco della di sparare alla democrazia. Nella democrazia cristiana. Libertas, certo. Ascolta, no, non me ne frega, guarda, che c'è ragazze, ragazzi. No, no, no, no, no. No, vabbè. Ascolta, se riesco a farmi questi 2 livelli oggi, domani, tra un coso turno di lavoro e l'altro, ne parliamo. Vabbò, dai. Ciao nonno. Ciao, ciao nonno. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Cara filosofia dietro ludica. No, no, no, no, no, no. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Videoludica. Vabbè, va. È uguale. Grazie Stefano, e torniamo quindi alla parte finale della trasmissione con mentre insomma che vedete visto questo format un po' più strutturato, ci abbiamo anche il tempo ogni tanto di riposarci le orecchie e l'ugola. Stavamo qui con il buon Luigi che lo vediamo una volta ogni anno e mezzo e quindi ci fa piacere anche passare un po' di tempo con lui dopo la pizza baby che ci siamo mangiati prima dopo Berlino. E quindi dopo Berlino. Quindi Stefano, non ti offendere se siamo arrivati gli ultimi 5 minuti quando ci hai ripassato la linea, non abbiamo capito un cazzo di quello che hai detto e non ce ne frega niente, però ti vogliamo bene, sappiamo però che sicuramente hai fatto ridere il nostro pubblico come al solito in questa rubrica che è stata proprio calzata e dipinta per te. Allora, siamo arrivati alla rubrica della posta. Marco o Peppe, chi è che si occupa della rubrica della posta? Allora, io faccio magari l'altra persona perché poi Stefano Giuseppe risponderà. Quindi sì. Dare un po' allora in realtà allora parliamo di che cosa. Allora, questo faccio è una voce diversa. Allora, facciamo questo preambolo, siccome c'è stata una distorsione spazio-temporale, non c'è ancora giunta la roba della puntata precedente, per cui siamo dovuti, come dire, raschiare il fondo del barile guardando tra i commenti del... Comunque gente ha cominciato a commentare finalmente pure gli articoli. Giusto. Del nostro sito. Ah, è tornata a commentare, esatto. È tornata a commentare gli articoli. Vuol dire il sito lo segna. Proprio... Francesca che dice enlarge your penis, sì. Però sì. Lo segniamo come spam. International Pharmacy? Pharmacy, esatto. Ci vendono il Viagra. The Blue Pills. Però io avevo esordito con una delle mie rubriche su questo sito, che era la rubrica Gioco Dunque Sono, dove appunto nel primo episodio avevo fatto un po' una specie di rimembrare com'era giocare agli albori della mia carriera videoludica e com'è invece la situazione adesso, prendendo in considerazione tutta una serie di aspetti, e alla fine mi ero posto la domanda se effettivamente si stava meglio o si stava peggio oggi. O no? Si stava meglio quando si stava, esatto, o si stava peggio quando si stava meglio, e non ci sono più le mezze stagioni e quando c'era lui, come dicevano, i treni arrivavano sempre in orario. A questo fortunatamente ci ha risposto un ascoltatore che è anche uno stimatissimo collega di podcast che abbiamo pure avuto. Io non lo conosco, chi è? C'è interlocuto. Che è quello che ti mette un dito in panza e muore. E dopo 7 secondi. C'è anche quello di Patrick Stewart che è Interlocutus. Grande. Comunque, questo è un po' più sottile. Il caro Davide Moretto, alias Davy, del tentacolo viola. Faccio io Dave. Certo, fai Dave. Devi parlare un po' milanese. Come non conosco? Ci hai parlato. Ho capito, ma ci ho parlato una volta. Io sai che se non ci parlo almeno 700-800 volte non lui già si ricorda una volta. Ma fai il milanese, fai il milanese. Allora, per quanto riguarda i videogiochi, no? Si sta meglio. Questo ora. È genovese comunque. Genovese? Sì, un po' sì. Bella, c'è ragione. Vabbè, fallo allora, normale, per così. Quanto riguarda i videogiochi, no? Si sta meglio ora. Con una scelta finita, una qualità mai vista, una possibilità di acquisto su diversi fronti. E se non si vuole comprare come capitava ai tempi delle cassette in edicola, c'è sempre modo. Insomma, oggi è meglio. E qui lo dice due volte. Il fatto si stava meglio quando si stava peggio è come sempre legato alla nostalgia, ai ricordi di una persona che è cresciuta e ha mille cazzi da gestire e non può più stare davanti al monitor per 5 ore di fila. Perla, questo ce l'ho messo io. Così, pistola. Pistola. Peraltro, se oggi dovessi aspettare 10 minuti che passavano tra una missione e l'altra di F-19 Street Fighter PC-64 e a volte si piantava tutto e ciao, dare fuoco al mondo. No. Io ci ho risposto, insomma, non mi vado a leggere. Comunque, effettivamente, i videogiochi in parte sono d'accordo con lui, perché i videogiochi di una volta che vengono appunto giocati oggi a distanza di tempo, quello che comunemente come pratica ormai diciamo siamo soliti chiamare retro gaming, no? Assumono più che altro un valore aggiunto che è legato esclusivamente alla nostalgia. E ovviamente il progresso tecnologico nel frattempo è andato avanti, ma di tantissimo, e non potremmo da un giorno all'altro voler tornare appunto indietro come con la cassettina di F-19 Street Fighter per come 64 con i suoi caricamenti infiniti. Io mi ricordo Gauntlet. Bello. Io, esatto. Su Atari, sì. Che non c'aveva Turbo Tape e ci metteva qualcosa come dai 30-40 minuti per sì, caricare. Sì, ma tanti giochi guardano, sì. Fino a che non c'è stato il Turbo Tape. Anche se c'era da dire, anche se c'era da dire che comunque i caricamenti del Commodore 64 con tutte quelle quei turbini di colori, ma che quello dopo quelle, è venuto sì, prima non era così vabbè, ma io sto schermo io, grigio io sto nero, parlando nero, io sto dai, parlando del nero. Mio primo periodo se permetti della mia infanzia è vero tu sei nella mia infanzia del Commodore 64 c'erano queste cose che erano fantastiche comunque che però era una copia di quelle d'Ospe esatto. Però c'è da dire appunto che non possiamo più tornare indietro. Io però sono comunque convinto che una parte di quel fascino, di quella magia di allora si è perso secondo beh, me sì, sì. Oppure sono ormai diventato talmente vecchio che non riesco più a seguire la moda di oggi. C'è sempre io voi sapete che io condivido al 70% le cose che dice Luigi sì. No, perché su qualche cosa giustamente non ci troviamo d'accordo, ma è pure normale. Uh-huh. Però la storia dell'animale temporale è una cosa che mi è rimasta infissa. Sì. E penso che anche un po' quello che dice Dave sia giusto, cioè nel senso che molto è anche come siamo cambiati noi. Però c'è la sua risposta alla mia risposta. D'accordo. Mi devo rimilanizzare un'altra volta. Sì. Rimilanesizzare. Aspetta, che c'ho un attimo di. Madonin. Sì, ma secondo me quello che si è perso alla fine è proprio la magia. Però una magia di un periodo bellissimo dove tutti volevano essere come Goonies. Se parliamo strettamente di videogioco, tantissimi dei miei preferiti oggi sfigurano a me con produzioni mobili. Prendi Rick Dangerous, gran bel platform, bastardo del periodo Amiga. Su Android e iPhone ci sono mille giochi più belli, ma io a Rick sono affezionato come a James Bond e Micropo Soccer. Ma quando gioco a FIFA oggi non penso certo di fare cambio. Niente. È poi una risposta un po' ambigua, sì, un po' non ambigua, scusa, è un po' di qua, un po' di là, sì. Cioè nel senso. C'è anche un bottista. Luigi, siamo animali temporali. Sì. Secondo te siamo noi che siamo cambiati? O si è persa la magia? Perché questo è il cioè sì. L'articolo di Peppe bello. E che vi invito tuttora a leggere se non l'avete metteremo fatto. Nelle note dell'episodio e il succo è quello, cioè nel senso se stava meglio o se stava peggio. Io infatti ho commentato, lui lo sa, io gli ho detto hai fatto la domanda atavica proprio. Ci sia un elemento che contraddistingue anche per il tema che abbiamo trattato, la serialità, i rischi della serialità. si sta meglio come si stava peggio. A noi piace richiamare il tempo come animali temporali. Sì, sì, ci piace. Ecco perché oggi di più, poi oggi di più, perché viviamo nel mondo del nostalgismo più puro. Internet, social network, le foto di noi dappertutto, la nostra identità è stata messa adesso all'interno della visibilità del passato. Addirittura diventa passato già nel momento in cui io scatto una foto, sono qui a Roma con voi eccetera, taggo, quella foto poi è morta letteralmente, perché non ci torneremo se non quando saremo ancora più anziani a dire: oh, guarda come eravamo. Ce l'abbiamo messa da parte, perché su Facebook non la ritroviamo manco più. Sì. Quello che volevo dire è che una cosa sulla serialità, ecco, molte volte la serialità, le software house puntano come produzione sul giocare sulla memoria che sia di un'esperienza. E mettiamo caso, noi giochiamo a Mass Effect, per tornare al punto principale, perché ai soldi. Non solo vogliamo continuare con Shepard, sapere cosa sta facendo, ma noi siamo legati emozionalmente, a livello di sensazione e tutto, all'impatto che abbiamo avuto con il prodotto, in questo caso con Mass Effect. E questo è importante. Non a caso le serie che non attecchiscono, mettiamo caso Watch Dogs, ok? Ora, io sono convinto che la seconda parte, se ci sarà un Watch Dogs, magari con lo stesso nome, ho capito proprio in seconda. Non uscirà su Wii U. Questo sì. Siamo sicuri tutti. Sarà qualcosa che dovrà segnare marcatamente la differenza rispetto al primo, oltre che dare delle migliorie. Certo. Perché non ci si affeziona a Watch Dogs? Perché non c'è quell'impianto autoriale forte che fa la differenza, che c'è un Mass Effect, che aveva, aiutami a dire, il primo Gears of War. Esatto. Il primo Gears of War c'è forte un impianto. Il primo sì. Dead Space non ce l'ha, cioè la saga di Spark, come si chiama, scusami, Isaac Clarke. Poteva finire al primo. Isaac Clarke era comunque nato come personaggio anonimo. Hanno proprio cominciato a rovinare dal momento in cui dal secondo è diventato un simbolo proprio. Sì, però così. Tanto il problema più, è che più ancora più di tutta l'ambientazione. Non possono essere tutti grandi sceneggiatori, sì. Non possono essere tutti grandi registi, sì, e non tutti i film riescono per essere dei capolavori. Questo esatto. E c'è tanta roba che noi dimentichiamo col passare del tempo, perché e non possono tutti essere videogiocatori snob. No, no. Non possono con R Motion anche. Sì. Ma io aggiungerei che non ha importanza quanto sai scrivere, anzi forse è difficile mantenere quel livello di scrittura su una qualcosa di seriale. Ecco perché un grande videogioco è quello che è sceneggiato in modo non riproducibile, non serializzabile. Mettiamo The Last of Us, e c'è una storia che si conclude lì. Sì. Immaginate però che potenza. Che è l'azione più coraggiosa, poi quella. Sì. Eppure loro non vogliono fare una serie di The Last of Us, questo con Uncharted. Speriamo che sia così. Speriamo. Ho detto la cosa più sacrosanta. Proprio. Speriamo che non sia così. Perché una cosa è l'intenzione mentre che lo fai, e una cosa è poi dopo quando subentra il nuovo capo e ti dice: no. Sì, ricordo. Aspetta. Ci sarebbero un po' di soldi. Sì. Vabbè, allora, ragazzi. Anche perché ricordiamo, la botta di culo una volta devo andare bene. Ah, Peppe, tu hai scritto l'articolo. Sì. Si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, perché poi tu in realtà rispondi al. Ti ho detto io. Secondo me, in parte sì, perché si è perso un po' di quella magia, di quell'innocenza di una cosa ancora, di una corsa all'oro che ancora si poteva fare. Sì. Oggi ormai non solo hanno trovato l'oro, ma hanno scavato e raschiato, esatto. Sbragato e distrutto tutto. Che poi non lo so, cioè nel senso questo non è quando facciamo che ne so le prime puntate di archeologia informatica, archeologia videoludica, cioè il pixel, il fosforo verde, roba, già solo quello, il fatto che non è più così, cioè il fotorealismo ci riporta veramente in un altro tipo di intrattenimento. Noi veramente ne parlavamo di questa cosa, perché è diverso, il videogioco a volte era veramente un'altra cosa. Marco, tu vuoi rispondere? Secondo te se stava meglio quando si stava peggio? Tu se non stava lo sai. Peggio quando si stava peggio. Okay. Sicuramente, cioè, sono cambiati i tempi, sono cambiati anche noi, per cui sicuramente vediamo molto meglio quello che per noi magari allora era brutto. E si stava meglio anche quando, ora che non si è il PC più squagliato, no? Ora si sta meglio. Un pochino meglio, perché posso giocare a massimi a livello ultra, insomma. Bene. Allora, direi che a questo punto noi possiamo, visto e considerato la scarsità di posta, ma poi già dal terzo episodio vedrete che ci scriveremo da soli e vedrete che c'è letteralmente. Facciamo come facevano tanti su The Games Machine. No, come vedi, come fanno tuttora la pratica anche di alcune riviste. No, no, vabbè, io dico The Games Machine perché Carlo Sant'Agostino dice che non è, non so, ricorda se faceva, lo sapevamo, lo facevano, lo sapevamo, insomma, quindi non è che vabbè, ma detto questo, salutiamo Marco. Allora, vuoi salutare il pubblico? Sì, andiamo a ciao pubblico. Vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, non si sa quando sarà. Abbiamo a novembre. Sì, abbiamo deciso di che cosa parleremo, no? Ancora no, ancora i giochi dei morti. Giochi dei morti. A novembre, sì, parliamo dei morti. Halloween. Giuseppe, a te saluta e di tuoi riferimenti. Vabbè, io vi saluto, vi invito ovviamente, siccome vi piacerà, vi piace DVL, vi piaceranno sicuramente tutti gli altri podcast videoludici e non di PN, e spero che ascoltiate o tornate ad ascoltare o cominciate ad ascoltare L'Occhio del Beholder. Sono il Beholder. E comunque fateci una scappata sempre pure per guardare gli articoli che ci sono sul sito di DVL. Non accontentatevi solo del nostro podcast, fantastico podcast audio. Perfetto. Luigi? Io mi associo. Luigi oramai, insomma, un personaggio che noi sappiamo. Non so perché tutti oramai gli facciamo sta sì, storia a sì. Luigi, perché lui scrive su PSM, quindi... Sì. No, vabbè. No, mi associo a Peppe per quanto riguarda... Insomma, tutti gli inviti a seguire podcast che sono sotto l'ombrello di PN. Bucato, ombrello bucato. Bucato, le palle. Che è sempre meglio un ombrello bucato che un... culo? Bucato. Un preservativo bucato. Ah, okay. Non so perché, però. Sì. E niente, quindi grazie e alla prossima. Ok. www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito. Dietrologia Videoludica la trovate sia su Facebook che su Google Plus, chiaramente lo potete cercare anche su iTunes per abbonarvi al nostro podcast audio, e la nostra posta è dietrologiavideoludica@gmail.com, che ultimamente non ci abbiamo guardato, ma sicuramente, come dice il buon Giuseppe, saranno milioni e milioni di lettere che fantastiche. Arriveranno con lo stesso indirizzo, per ora in transito in quel buco nero spazio-temporale. Mi raccomando, poi quando ci scrivete, dopo che avete scritto, andate sul sito, guardate le fotogallerie, guardate i video, articoli, commentate tutto, commentate, andate su YouTube, metteteci 25-27 stelle, condividete, stelle. Ma pure abbonatevi anche al canale video, ogni tanto mettete vi piace, condividete, visto e considerato che noi facciamo un bucio di culo così a fare questi video bellissimi. Tutti ci scrivono: oh, raga, sono dei video da paura, ma com'è così poche visualizzazioni? A noi ci siamo chiesti perché stiamo poco bimbo minchia. Ma detto questo, insomma, possiamo andare, stiamo cominciando un nuovo corso, l'ultimo episodio del Giro Otto Gamers ve lo ha dimostrato, e seguiranno altre di queste perturbazioni, diciamo interazioni, chiamiamole così, interpretazioni, e quindi continuate a seguirci, magari cominceremo anche va bene. Geronto Gamers, magari si è fatta anche una certa. Adesso sono i Geronto Gamers, salutiamo ancora una volta Luigi, perché veramente per la prima volta ce l'abbiamo in studio e abbiamo apprezzato anche quanto è diverso, no? Lo stiamo anche toccando, lo tocchiamo, stare qui in studio tutti quanti insieme. Magari una volta, spero che, insomma, tanto ho visto, c'è Giuseppe che te ospita, no, perché... l'ho scaricato a te, no perché stare in studio tutti insieme, venite tutti a casa mia a toccare tutti a toccare lui. Adesso lo stiamo toccando in questo però momento, non toccate Giuseppe, ricordate l'effetto qual è. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao. Un attimo, prima di interrompere, una cosa voglio chiedere. Ma è normale, secondo voi, ragazzi, che io di Berlino non mi ricordo nulla? No, io neanche io mi ricordo niente. Ma guarda, che secondo me fra un po' ci ricorderemo. Cioè, se tu adesso mi chiedi, vuoi raccontare Berlino? non mi viene. Forse è stata un'esperienza scioccante. Sì. O forse ci hanno cancellato la memoria alla dogana. Secondo me c'è qualcosa di quantico in tutto questo. Esatto. Ciao. Geronto Game. Flawless victory. Ciao amici. Welcome to Geron to Gamer. A me di giocare al nuovo Metal Gear non mi convince. Non lo so, forse è la trama. Beh sì, è un po' astrusa, ma non ti spiego, guarda, ci sta il figlio di Big Boss che va a trovare la nonna. Ma so tutti i cloni. Sì, ma da qualche parte avranno clonato, no? Quindi c'è sta la nonna che in realtà è lo zio de Ocelot che si è fatto innestare la memoria sua e di Grey Fox. Ecco, già mi sono rotto il cazzo. Guarda, a me Kojima mi stava sulle palle nel 2006, figuriamoci oggi. E poi, non era morto, non si era strozzato con una banana intera. Sì, ma prima che avvenisse la morte cerebrale, si è fatto trapiantare il braccio destro sul corpo del ragazzo dei 20 anni, e ora i due convivono in un corpo solo. E il braccio? Ma che è sta strozzata? Mo col trapianto del braccio uno sopravvive nel corpo dell'altro. E in Giappone funzionano queste cose, e loro stanno avanti. Vabbè, comunque, basta Kojima, basta Snake, che so decenni che vanno avanti con sta storia che non si capisce più una mazza. Non gliela faccio. Uffa, Simo, vabbè. Proviamo sto Call of Duty nuovo, va. Si chiama Postmodern Warfare, il nuovo sparatutto in prima persona. Ma pure quello. Ma che me vanno di nuovo? Ma pure sti ragazzetti che se lo comprano non si rendono conto che so 30 anni che fanno sempre le stesse cose. Gli stanno solo a cambiare lo scenario. Ma lo scenario è importante. Qua si svolge tutto dentro il Museo d'Arte Postmoderna, da qui il nome, no? Eppure che il cattivo, che è interpretato da un attore famoso di Hollywood, dicono che è un personaggio davvero iconico, si chiama Bad Guy. Ammazza che impeto di fantasia. No, guarda, lascia sta. E allora proviamo il nuovo FIFA. Nuovo? Ma davvero? E quest'anno che c'è sta di nuovo? E c'ha la feature ai laser. E che? Hanno aggiunto random uno spettatore che proietta un laser verde negli occhi, disturbando la partita. Che figo. E se ti metti occhialetti per la realtà virtuale, il laser lo proietta vero direttamente sulla retina, per dare maggiore veridicità del tutto. No, guarda, basta con questi giochi fatti con lo stampino. Mi sono rotto. Tutti uguali a se stessi, tutti ripetitivi. Ogni anno aggiungono, sì e no, qualche caratteristica nuova, tanto per non far accorgere la gente che stanno a giocare sempre allo stesso gioco da 5 anni. Basta, io sono stufo. Sì, c'ha ragione, guarda, sono stufo pure io. Vediamo se nel catalogo online c'è sta qualche IP nuovo originale, eh? Ma che sei scemo? Ma chi li gioca se non li conosco? Io mica mi fido di sta gente, sti programmatori improvvisati che dicono che escono con nuovi giochi, nuove IP, sono tutti cialtroni. Io voglio andare sul sicuro. E il nuovo Assassin's Creed? Quello ambientato nel mondo della Formula 1. Poi si è stata una macchina all'altra a 300 km orari. Che palle, sempre le stesse cose. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the DC area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir,